passare al bar prima di tornare a casa, a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Tra una dura femminista ed un morbido maschista, questo amore è una svista. Bruci in piazza un reggipetto, mentre forse per dispetto te lo metti pure a letto. Cosa bisogna ascoltare? Cosa bisogna sentire, caro Parenzo? Cosa ascolto, cosa sento? Vado ai matti. Vado ai matti. Che succede? Come, cosa succede? Sai che c'è questo appello, manifestazione delle donne contro Berlusconi? Ieri sera Alba, Parietti era un po' sorpresa, ma veramente non è contro Berlusconi. Guardi, signora Parietti, è una manifestazione contro Berlusconi. E questo è innegabile. Su questo non c'è, poi uno può essere d'accordo, non d'accordo. Ma è una manifestazione contro Berlusconi. E io sento delle cose inenarrabili. Per esempio, Lucrezia Lante della Rovere. Come no? Come Lucrezia, no? La conosci, no? Bellissima donna. Splendida, grande splendida. Copertine su Playman, anche fotografie hot, diciamo. Una volta si aggirava anche mezza nuda sulle spiagge di Capalbio, fu ripresa dai fotografi. Male. Sì, ma per carità, assolutamente. Senti cosa dice. Senti. Ieri sera hanno zero. Propongo di mettere anche delle bandiere come sono state fatte per la pace, che c'erano gli arcobaleni, no? Affinché questa manifestazione abbia una risonanza più, anche più a lungo, più nel tempo, di mettere delle belle bandiere con scritto basta alla pornocrazia. Forse queste bandiere, se tappezzassero l'Italia, come è successo con appunto con le bandiere della pace, magari questa risonanza sarebbe anche più duratura nel tempo. Questo amore è una svista. Beh, al posto delle bandiere potrebbero metterci le copertine di Playman o di altri settimanali, il settimanale A, eccetera, eccetera. Come sei duro, direttorissimo. Durissimo, no, però è vero, hai ragione. Questa volta hai ragione. L'unica ricchezza è quella del portafoglio, sentiamola ancora, la signora Lucrezia Lante della Rovere, borghesia, ricca borghesia più o meno romana e dintorni. Penso che questa ragazza si stia insegnando in questo mondo, in questo momento si stia insegnando che l'unica ricchezza sia quella del portafoglio, delle tasche piene, della furbizia, della velocità al successo. Penso che la ricchezza di un paese, di un popolo sia più spirituale, penso che sia più culturale, penso che sia più di raffinare il pensiero, di avere gli strumenti. Raffinare il pensiero. Poi quando si va un po' più a fondo a capire le cose si scoprono le banalità, no, anche delle persone. Gli uomini aderiscano, dice, perché anche loro hanno delle figlie. Aderiamo anche noi, Parenzo, anche noi. Abbiamo delle figlie femmine. Che c'entra? A me lo dici che c'entra, per cui dobbiamo aderire perché saranno in pericolo se vince questa cultura maschilista, macista, incarnata dal berlusconismo. Dobbiamo aderire per forza. Le nostre povere figlie, Margherita, e non basta, non dico scusami, sono detto il nome, sono in pericolo. No, non c'è nessun problema, è una cosa che sono in pericolo. No, mia figlia sta guardando. È in pericolo tua figlia? È tranquillissima, serenissima. Il suo corpo di bambina e non di donna, ma è in pericolo per ti niente. Senti, qui, senti in pericolo, senti che sarà in pericolo se dovesse. Ma non ci sono, non c'è nessuno fuori, non ci sono gli azzurri, azzurro libertà qui fuori della porta, vediamo. C'è Berlusconi qui fuori? No. Tutto a posto. Nessuno la vuole portare ad Arcore, no? Nessuno la vuole portare ad Arcore, qui c'è una calma piatta. Vediamo, magari qualcuno. Chi è? No. Non c'è nessuno, non c'è tutto a posto. Non c'è nessuno, non c'è pericolo, guarda, per ora. Senti. Io quindi spero veramente che il 13 tutte le donne, ma insieme anche agli uomini, perché io immagino che questi uomini abbiano anche delle figlie femmine. Io spero che queste figlie, insomma, che questi uomini non ambiscono ad avere tutte le figlie femmine in fila per fare bunga bunga con il nostro presidente. Un giocattolo non sei. Sono robe incredibili, secondo me, incredibili. Va bene, comunque, insomma, una polemica al giorno va bene, anche se ripetuta, eh. Io poi sento voci nuove, dunque le polemiche si ripetono ogni giorno, magari sono le stesse. Va bene, la risposta di Salvini, di Matteo Salvini, a tutto questo bailam di manifestazioni delle donne, adesso ci sarà un inferno fino al 13, i nostri figli non li educa Berlusconi e neppure Marrazzo, giustamente. Mio figlio o mia figlia la educo io, non deve essere il presidente del consiglio o chiunque altro a educare mio figlio. L'educazione a mio figlio e a mia figlia lo danno il papà e la mamma, non Marrazzo o Berlusconi. Marrazzo e Berlusconi possono fare quello che vogliono. I figli vengono educati dai genitori, né da Marrazzo né da Berlusconi. Va bene, però se parliamo di Marrazzo mi fate dire perché Marrazzo si è dimesso. Lo dico perché sì, ma perché l'hanno preso? Perché l'hanno preso? Preso con le mani nel sacco, perché l'hanno preso? Lì c'era qualche cosina che c'era qualche cosina di oltre. Il fatto con la Melandri, i modelli non contano, i modelli, il modello. Però l'accostamento con Marrazzo è proprio sbagliato, è una caduta di stile dall'onorevole Salvini, non me l'aspettavo. Sì, sì, Marrazzo. Però vuol dire, uno se utilizza. Ma che non c'entra niente, Marrazzo. No, è vero, però, è vero, hai ragione. Non c'entra niente. Vabbè, nemmeno Berlusconi ha commesso reati fino a prova contraria. Che c'entra? È indagato, però e piace sempre ricordarlo. È indagato per sì, due reati. Ho capito, però voglio dire. Che sono? Siccome si parla, lo sappiamo. Ripetiamo tre volte. No, che però voglio dire, il punto è un altro. Siccome si utilizza Berlusconi in questo caso come modello, no, da parte della loro Melandri. Ma questa è una stupidaggine. Allora, uno dice, vabbè, allora a quel punto anche Marrazzo potrebbe essere un modello. Invece a me. No, ho capito, però, siccome ma un leader. Non ha candidato amici. Sì, ma lascia perdere, si utilizza Lazio come modello. Siccome il modello, siccome la polemica è Berlusconi fa un tipo di vita, offre un modello che è di un certo tipo, allora uno dice, beh, se dobbiamo utilizzare questa cosa si può dire anche del presidente della regione, dell'ex presidente della regione Lazio. Per me non si dovrebbe dire perché non me ne frega niente di quello che fa. Ma certo che è diverso, certo che è diverso. Oddio mio, ma stiamo parlando del modello, ma a me non interessa il modello di stile di vita. Certo che i casi sono diversi, sono molto diversi, che c'entra? No, ma infatti io l'ho ripetuto, forse anche io ascolto, a me è equivocato, a me non interessa nulla il modello di vita di Berlusconi, non mi interessa niente, no, mi infatti interessa che non commetta reati. Sì, d'accordo, siamo d'accordo, però se si cita come modello, allora a quel punto uno dice, vabbè, ma allora perché? Il modello sono il papà, la mamma, i nonni, quello che ognuno prende come modelli nelle proprie famiglie, figuriamoci su quello come modello Berlusconi, può essere che qualcuno lo allora, prenda. Allora, Barbareschi è al centro delle discussioni in Futura Libertà, perché come sai non ha, si è astenuto, lui dice di no, ma formalmente è così, nella votazione sulla vicenda Ruby Berlusconi, giallo Barbareschi. Intervistato ieri sera da Anno Zero, dice: consiglio a Berlusconi innanzitutto di chiedere scusa per il suo comportamento. Vorrei dare un consiglio non richiesto al Presidente del Consiglio. Io penso che nella vita tutti possa capitare di sbagliare. Un gesto molto importante come quello di chiedere scusa per aver sbagliato l'ho fatto io, l'ho fatto con i miei figli, quando per eccessi che ho fatto nella mia vita mi sono trovato a chiedere scusa per averle offese la loro personalità, la loro sensibilità, scusate. Chiedere scusa secondo me è importante. Questo era un appello dal sito di Generazione Italia. Poi ha anche detto: sentiremo più avanti, l'Anno Zero, il posto da sottosegretariato mi darebbe problemi per il lavoro, vivo del mio, non sono avido. Ha sfidato Gad Lerner per la questione degli appalti televisivi. Ma noi abbiamo qui un esponente di Futura Libertà, un esponente piemontese. Anche lui non ha partecipato al voto per motivi che adesso ci spiegherà. Roberto Rosso, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene, bene. Allora, Roberto Rosso, per chi non lo sappia, è un deputato di lungo corso, perché è stato uno dei fondatori di Forza Italia, amico personale di Berlusconi. È vero che ha frequentato i Salesiani anche lei come Berlusconi? No, io sono pronipote del fondatore dei Salesiani San Giovanni Bosco. Pure? Era il fratello del mio trisnonno. Per cui lei ha con i Salesiani un grande rapporto, addirittura familiare. Però ha frequentato le scuole dei Salesiani come Berlusconi, o sbaglio? No, sono stato un ex allievo, ma più nel periodo del bighellonamento, cioè extrascolastico, che non durante il periodo scolastico. Le scuole le ho fatte laiche, sono stato poi dei Salesiani come oratorio. Senta, ma da quanto tempo conosce Berlusconi lei? Da tantissimi anni, amico personale? No, dal 93. Non lo conoscevo prima, fui chiamato per entrare in questo movimento e devo dire che fui alla prima riunione che si fece, dopodiché fondai Forza Italia in Piemonte. Ne fui il primo coordinatore regionale, l'ho guidato per circa 10 anni, Berlusconi è commesso da generoso, mi ha fatto sottosegretario, mi ha confermato per 5 volte la Camera, quindi non posso dire assolutamente. Una volta lei l'ha definito il Maradona della politica, addirittura. No, assolutamente. Io credo che, cioè, continua a essere, secondo lei continua a essere anche oggi il Maradona della politica? Ma guarda, invece questo è lo prospetto, che negli ultimi tempi Berlusconi si comporta un po' da matto, perché sinceramente non è tanto il problema dell'aspetto giudiziario o comportamentale, però voglio dire, non mi sembra ragionevole che un uomo di 75 anni, arrivato come lui, che potrebbe parlare il giorno di Pasqua con tutti i migliori cervelli del mondo, lo dedichi invece alla Ruby Rubacuori. Questo non c'entra niente, ovviamente. Cioè, invece di parlare con economisti, scienziati, cervelli, va con Ruby Rubacuori. No, una volta, cosa vuole mai? Alcide De Gasperi, qui giustamente anche Berlusconi si era paragonato. Parlava con Aldo Moro e lui parla con Ele Moro. Senta, ma lei dice, quando dice è matto, che vuol dire? Ma no, che è un po' matto perché... Cioè, impazzito, quando è che ha preso... È un uomo che può avere tutte le donne che vuole, che senso abbia, che senso ha che a 75 anni, 74 quanti ne ha, si accompagni ragazzine di 18-20 anni, adesso non parlo neppure del fatto minorenne, ma non ha senso, non ha senso. Io credo che ragazzi di quell'età debbano naturalmente andare con ragazzi della loro età, che sia giusto quello che ha detto Bersani, che una ragazzina di 17 anni dovrebbe stare sui banchi di scuola e non alle feste di Ricconi. Beh, ma scusi un attimo, ma non è mica detto che ci sia stato insieme Berlusconi? Non ha mica detto? Che ci sia stato insieme alla signora Rubacuori. No, ma io non entro neppure nel merito di cosa ci abbia fatto. A parte che non so francamente che cosa potesse dire con Ruby Rubacuori di alternativo o qualcosa di, come dire, o gioioso o sessuale. Cioè, secondo lei sicuramente c'è stato qualcosa di sessuale? No, o gioioso. Può anche essere, Berlusconi un mattacchione, potrebbe anche aver passato la serata a raccontare stellette e a cantare canzoni da chansonnier. Però voglio dire, mi sembra incredibile, questo sì, che comunque una persona di quell'età, intelligente, saggio, con già di 4 o 5 nipoti, si accompagni persino alle feste comandate con ragazzine che dovrebbero stare altrove e non alle sue feste notturne. Senta una cosa, ma scusi, lei conosce Berlusconi da un sacco di tempo, ma sì, quando lo frequentava di più politicamente, lei non è mai stato a casa sua ad Arco, le feste, cose, no, niente? No, ecco, la cosa incredibile è questa, che io l'ho conosciuto molto bene, sono stato a casa sua, ci ho dormito, ci ho mangiato, è stato gentilissimo. Anche dormito? Cioè. Anche dormito? Però, sì, sì. Ma dove? Ad Arco? Dove? Sì, Berlusconi devo dire che è una persona molto generosa, molto disponibile, molto aperta. E devo dirle che io facevo il coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte e la cosa mi ricordo, cui sono sempre piaciute le donne, mica un reato di... Beh, oggi addirittura... Un'attenzione, allora, molto forte per la famiglia, per sua moglie, per i suoi figli. Ricordo che ogni volta che facevamo convegno, riunione insieme, si premurava sempre di telefonare a casa, di avere veramente la premura di un buon padre di famiglia. Poi sì, ma quando è che è cambiato? Anche permettersi qualche svago femminile. Quando è cambiato secondo lei? Non lo so, credo dal 2001, mi dicono. Io ho perso poi un po' le tracce, perché dal 2001-2002 sono entrato un po' in un cono d'ombra e quindi non l'ho più conosciuto. Senta, secondo lei da questo punto di vista è un po' malato, c'ha qualche tic, per carità? Adesso la malattia è una cosa diversa. Evidentemente devo dire che quando l'ha definita un po' matta è evidente che non capisco perché è una persona che quando lo conobbi io si comportava in modo assolutamente normale, affettuoso, premuroso verso la moglie e sui figli, oggi debba passare le serate con le ragazzine mentali, anche se non ci fa niente. Io voglio credere. Beh, sa, la sindrome della persona così anziana. Sembra un po' come dice Repubblica, oh, ha l'atteggiamento un po' del sultano, cioè. Sembra incredibile, cioè, come dire, è vero che, come diceva Parenzo, che non bisogna guardare un modello comportamentale da parte dei politici, però credo che nelle democrazie occidentali siamo abituati ad avere leader che hanno un altro atteggiamento verso la vita. Poi, oltretutto, io credo che, lo vedo per me stesso, che ormai ho compiuto 50 anni, quando cominci a arrivare verso il finale della tua esperienza vitale, penso che uno si ponga anche domande non più adolescenziali sull'esistenza. Beh, oppure il contrario. Mi sembra che Berlusconi abbia una visione adolescenziale della vita, il che magari a lui gioverà, però a me sembra strana quantomeno. Senta, traffico, poi mi spiegherà, perché ieri, forse in un rigurgito di affetto verso Berlusconi, lei non ha partecipato al voto alla Camera. Traffico. tra una dura femminista ed un morbido maschista, questo amore. Vabbè, che è successo ieri alla Camera, Rosso? Lei perché non ha partecipato? È una cosa molto semplice, che io posso avere divergenze politiche con Berlusconi, ho votato anche contro la fiducia al suo governo, perché però ritenevo che il progetto di Fini fosse più adeguato. Però un conto è avere divergenze politiche, un conto è esprimere un voto su un atto giudiziario che attenta alla libertà di Berlusconi. Io credo che questo avrebbe ripugnato la mia coscienza, mi sono chiesto se me la sentivo, non me la sono sentita, sono andato a parlarne ieri pomeriggio con Fini, gli ho detto che non mi sarei più guardato allo specchio se avessi fatto una cosa del genere, perché tutto è possibile nella vita, ma non arrivare ad avallare atti giudiziari nei confronti di una persona con cui si sta di amici. Scusi un attimo, Rosso, dunque lei mi sta dicendo che i PM che conducono l'inchiesta su Berlusconi lo vogliono perseguitare? No, io dico soltanto che non me la sento, onestamente. Non voglio neppure entrare nel merito. Beh, come non entra nel merito? Uno è un deputato. Scusi, se fosse entrato nel merito avrei espresso un voto. Io invece, non essendo un giudice, essendo un parlamentare chiamato a fare altro dei miei elettori, ritengo che in casi come questo ci si debba porre davanti alla propria coscienza e dire: te la senti onestamente di infierire contro una persona che ti è sempre stata amica? Io, guardi, sono stato in passato, quando ero con Berlusconi, oppositore della sua posizione in occasione ben più grave di quella di ieri. Ho votato contro la guerra in Kosovo, ho votato contro la missione in Iraq. E Berlusconi, devo dire la verità, non mi ha mai opposto niente. Dunque, questo lei ieri, scusi un attimo Rosso, no, questo è interessante. Sì. Lei mi dice, io nella giornata di ieri, dove si doveva votare su rimandare le carte ai giudici di Milano, no, ho preferito non infierire su Berlusconi. Sì, ma l'avrei fatto probabilmente anche con un'altra persona. Vabbè, cioè, no, in questo caso si sta parlando di... Allora, personalmente non me la sento Rosso, di assolvere funzioni giudiziarie, sì, ma sicuramente nel caso di una persona amica non me la sarei sentita ancora di più. Ho capito, lei come li giudica i PM di Milano, la Boccassini, il signor San Germano? Loro probabilmente avranno mille ragioni dalla loro parte, però ritengo che ci sia stato, e questo sarebbe sbagliato non vederlo, in generale in questi 15 anni, questi 17 anni, un accanimento giudiziario contro Berlusconi. E dunque questa inchiesta anche... che non siano veri i capi di imputazione. Penso però che i grandi imprenditori italiani, penso a Gianni Agnelli, a De Benedetti, a tanti altri, avessero probabilmente gli stessi difetti, gli stessi virtù di Berlusconi, però non sono mai stati inseguiti dalla giustizia come è stato fatto per Berlusconi. Quindi da questo lato mi sembra che Berlusconi abbia avuto un trattamento speciale rispetto ad altri suoi consanguinei di tipo plutocratico, cioè altri ricconi come lui e altri grandi industriali come lui. Un inseguimento da parte dei magistrati come lui ha avuto non l'hanno mai ottenuto. Senta Rosso, io però le faccio osservare una cosa, poi Parenzo puoi fare la tua domanda quando vuoi. Una cosa molto semplice, queste sue idee, che sono per carità rispettabilissime, io personalmente le condivido in parte, sono in netta contrapposizione a quella che è la linea, su un elemento molto importante, su quella che è la linea del partito cui lei ha aderito poche settimane fa. Cioè la linea che è quella del presidente Fini, di Bocchino, che non parlano assolutamente di accanimento giudiziario, ma il fatto che Berlusconi deve andare di fronte ai PM, cioè questa è una cosa su cui lei ha pensato per questo di uscire da Futura Libertà? No, assolutamente no. Cioè lei resta in Futura Libertà? Il presidente Fini avrà detto in almeno 100 occasioni in cui io l'ho sentito che contro Berlusconi si è abbattuto in questi 17 anni un accanimento giudiziario. Beh, veramente non negli ultimi mesi, non negli ultimi mesi. L'avrà detto 100 volte in questi 17 anni. Ho capito, però non da un anno a questa parte. Non ho parlato in modo specifico di questa vicenda milanese, ho detto che negare il fatto che nei confronti di Berlusconi ci sia stato un interesse giudiziario che nei confronti di altri miliardari e imprenditori non si è mai verificato è una cosa indubitabile, Fini l'ha sempre riconosciuto. Poi non credo che la linea di Futura Libertà attenga al comportamento da assumere nei confronti del cittadino Berlusconi. Scusi un attimo, Rosso, Futura Libertà si deve dimettere o no Berlusconi? Si deve dimettere o no secondo lei, Rosso? Secondo me Berlusconi sarebbe bello che facesse un passo indietro. Cioè si dovrebbe dimettere. Io credo che la gente che l'ha votato vuole che il centrodestra continui a governare, evidentemente. Ma penso anche che non sarebbe inopportuno, come succedeva tante volte nella Prima Repubblica, se lui si accomodasse a fare un'altra funzione, magari il capo del partito, il ministro degli esteri, e lasciasse le vicende del Premier ad altre persone che in questo momento sono meno lavorate di lui. Sento una cosa, ma lei che è un esponente cattolico, addirittura ha l'ambizione di creare l'ala cattolica all'interno di Futura Libertà, che mi sembra una cosa... Ma non c'è un'ala cattolica, le devo dire la verità. Come fa a convivere con le posizioni di Fini, di Della Vedova, della Moroni, eccetera? Come fa? Le dicevo, io ho fatto un documento di laici credenti, l'ho chiamato, cioè di persone laiche che però credono in Gesù Cristo. E a questo documento hanno aderito i 9/10 dei gruppi parlamentari, sia al Senato che alla Camera che al Parlamento. Cioè, mi scusi un attimo, sulla questione delle coppie di fatto, perché dopo... Mi perdono, ci sono alcune posizioni minoritarie peraltro nel movimento, tra cui anche quella del Presidente Fini, che si è complimentato con me per aver comunque coagulato un così vasto interesse di tanti parlamentari del nostro gruppo. Senta, in Futuro e Libertà, progetti di legge sulla legalizzazione delle coppie di fatto possono passare, secondo lei? Ma guardi, io sono... assolutamente laico sull'argomento, cioè ritengo che non ci sia la possibilità di far adottare bambini a una coppia omosessuale, ma tutto il resto, sia sul piano dell'assistenza sanitaria, addirittura sul piano della reversibilità pensionistica, io ritengo che una coppia omosessuale non debba avere nessuna discriminazione rispetto a una coppia normale. Cioè, io credo che non si possa dare il matrimonio, perché la nostra Costituzione spiega molto bene che la famiglia basata sul matrimonio, cioè sul matris munus, sul dono della madre, è una cosa specifica, ma parificare i diritti civili credo che sia una cosa opportuna e doverosa. Mi sembra di sentir parlare Grillini, ottimo. Mi sembra di sentir parlare? L'onorevole Grillini è la stessa posizione. Un po' diverso. Dico erano queste cose qui, i Pax erano questa cosa qua. Cioè, lei sarebbe d'accordo non col matrimonio, ma per esempio per una cosa tipo i Pax o i Dico, una cosa di questo tipo? Su qualcosa di simile. Qualcosa di più omosessuale. Parliamoci, cara, le coppie di fatto. Si chiamino Pax. Un attimo, Parenzo, non vi sentite se vi accavallate. No, le coppie omosessuali potrebbero, a mio giudizio, tranquillamente, ci potrebbe essere una legislazione a questo riguardo, andare a legittimarsi davanti a un segretario comunale o un notaio e verrebbe loro riconosciuto tutta una serie di diritti civili che in questo momento ancora non vengono riconosciuti, tipo in materia testamentaria o di assistenza sanitaria. Dunque non c'è bisogno di una legge? No, ritengo che ci sia bisogno. Devo dire la verità, io sono avvocato, la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte Cassazione ha ormai... Senta, mi faccia capire una cosa, Rosso, però, in conclusione. Berlusconi, quando vi siete sentiti nelle ultime settimane? L'ho sentito, guarda, c'era stata proprio questa vicenda di Milano per dirgli che non approvavo sinceramente quello che era emerso, ma al contempo gli mostrò solidarietà sul piano della vicenda giudiziaria. Le ha offerto di rientrare nel PDL? Sì, ma... Che cosa le ha offerto? Un sottosegretario? Cosa le ha offerto? No, devo dire la verità, mi ha parlato, cioè siamo talmente amici che non ha avuto bisogno di farmi sottosegretariato. Ma devo dirle che me l'aveva anche detto prima del voto di fiducia alla Camera. Riprendiamo su questo punto dopo il giornale radio, mi scusi, 800 24 00 24. Eccoci qui, caro Parenzo. Eccoci, traffico. Ma no, ma il traffico c'è appena stato. Scusa, non devo interrompere nessuno, per carità. Ma secondo te l'onorevole Rosso alla fine ci ha litigato con Fini? Perché qui da alcuni titoli di Telespie e di altri... Ormai Futuro e Libertà è un accrocchio dove ogni giorno ne accade una. Ogni giorno succede qualcosa, si alza qualcuno che è in dissenso col partito, poi si alza un altro e dice no, ma in verità non è così. No, non sai, è vero, su queste questioni giudiziarie mi sembra che l'onorevole Rosso di Futuro e Libertà, ex Forza Italia, amico personale di Berlusconi, Salesiano e tutta questa roba qui, sia in netto dissenso, per cui sai... Ma in nettissimo dissenso, ma la questione giudiziaria, come ricordo tu, mi pare costituente, cioè la ragione è anche, non la ragione, la questione giudiziaria, diciamo la questione Berlusconi e il processo Ruby di per sé, è la ragione costituente di questo partito. Questo assolutamente, dunque se uno vota in dissenso c'è qualche problema, ma lasciamo perdere e andiamo a sentire, sempre ricordandovi l'800 24 00 24, come ci presenta la giornata il telegiornale di Bianca Berlinguer. Napolitano boccia il decreto sul federalismo municipale, testo irricevibile, ignorato il passaggio alle Camere dopo lo stop in commissione. Bossi telefona al Quirinale, riferiremo in aula, Calderoli, testo non modificabile, le opposizioni dal Colle atto dovuto, basta scorciatoie. Berlusconi al vertice europeo di Bruxelles, Italia Repubblica giudiziaria, una vergogna, il paese ormai è commissariato dalle procure. Bersani e la Lega, con Berlusconi il federalismo non lo farete mai, emergenza democratica, è il momento della responsabilità. L'Egitto in piazza dà l'ultimatum a Mubarak, il vicepresidente Reis lascerà ma solo alla fine non fuggirà. Unità d'Italia, preoccupazione di Confindustria per la festa del 17 marzo, la Marcegaglia celebrazioni sì ma senza perdere ore di lavoro. Dalla CGIL no all'accordo con il governo sui salari di produttività nel pubblico impiego ed è scontro tra la Camusso e Bonanni. Allora, c'è la questione della intervista al TG1 a Berlusconi, fatta da chi, scusa Parenzo? Renzulli. Michele Renzulli, sì, Michele Renzulli. Licio, no? Michele Renzulli. Ma no, no, ancora con sta storia, ma perché tu... Mentre Livia Ronzulli è la deputata del PDL che abbiamo intervistato tanto tempo fa a Strasburgo. Tutto sbagliato, allora Michele Renzulli è... quello che ha intervistato Berlusconi il 2 febbraio, cioè sì, due giorni fa. Licia, esatto. Licia Ronzulli? No. Ah, Licia, io mi chiedo sempre Licia, anche Licia però non è un brutto nome. No, non è un brutto nome, però quella si chiama Licia, abbi pazienza. No, ho capito, ma No, Licia Ronzulli, Licia Euro... detta Livia magari, sì, Licia Euro parla... detta Livia. Sì, no, non è detta Livia, comunque, no. Euro, almeno da quello che so io, poi non lo so. È come Giacinto detto Marco. No? No, in questo caso non credo, comunque europarlamentare, no, del PDL, non c'entra assolutamente niente. Io niente, lo so, non so, niente, so. Michele Renzulli a Berlusconi del 2 febbraio 2011. Il TG1, in maniera un po' perfida, ha ricordato un'intervista di Pierluca Terzulli, tra l'altro si chiamano tutti così, una cosa incredibile. Pierluca Terzulli, cioè Michele Renzulli da una parte e Pierluca Terzulli gli fanno... Non saranno mai assunti al TG1 io e te con i nostri cognomi. No, quest'altro al TG3, a Prodi del TG3 del 5 luglio del 2007, in cui oggettivamente le domande... non sono certamente ficcanti, ecco. Poi qualche sito ha pubblicato tutte le domande fatte da Michele Renzulli e quelle fatte da Pierluca Terzulli, ma questo è per dimostrare che naturalmente interviste cosiddette sdraiate, ma questo lo diciamo noi, le fanno tutti ai presidenti tra virgolette amici o comunque i telegiornali della Rai, ed è quello che sostenevo io ieri. Servizio del TG1 a riguardo che ha provocato qualche malumore soprattutto da parte del presidente della RAI, Garimberti. L'intervista del TG1 al Premier ha fatto rumore, eppure non è certo la prima volta di un capo del governo su un TG della RAI. Si può dire che volete passare dalla fase dei sacrifici a quella dell'abbassamento delle tasse? Sì, mi sembra una sintesi giusta. Ovviamente, quella volta nessuno si sognò di contestare alcunché. Questa, invece, non solo contestazioni, ma anche falsificazioni. Critica giurista. Come quella che ha operato il Fatto Quotidiano, che ieri sul suo sito internet riportava l'intervista con il taglio di 2 domande su 3, riducendola da quasi 4 minuti a 2:22, solo per dimostrare che si era trattato di un monologo del Premier. Come direbbe Travaglio, che del fatto è vice direttore, la notizia è stata abolita per non disturbare l'opinione. Vabbè, insomma, questo è il servizio perfido del TG1, che non è male, però, come... Io guarda, che ne dicano i radioascoltatori, comunista, io riconosco, chapeau al TG1 che ha ricordato una cosa vera, quindi... Cioè, che le interviste ai presidenti... Ieri ho sbagliato io. No, ma non è questione di intervista, vero, no, uno può fare anche il paragone tra le domande. Okay. Le interviste, di solito, le interviste da parte dei telegiornali, sto dicendo, dei telegiornali RAI, ai presidenti del Consiglio in carica, ma in generale a tutti i politici, sono interviste di cui si potrebbe fare tranquillamente a meno, diciamo la verità. Assolutamente. Perché assolutamente. Sono interviste inutili, in cui... Fatte così non servono a nessuno. Allora, basterebbe prendere la dichiarazione, poi montare un servizio, punto e basta. A che serve l'intervista? Un'intervista serve quando gli dice qualcosa di scomodo. Quella sulle tasse a Prodi era bellissima, però dopo i sacrifici avete intenzione? Così, si può dire che volete passare dalla fase dei sacrifici a quella dell'abbassamento delle tasse? Pierluca Terzulli a Prodi, TG3, 5 luglio del 2007. Non ha fatto di meglio Michele Renzulli a Berlusconi nel TG1 del 2 febbraio 2011, cioè qualche giorno fa, due giorni fa, in cui ora è il momento di tornare a crescere. In che modo? Ho capito, ma allora, se uno deve fare domande di questo tipo, non le fa le interviste, è meglio non farle. Cioè, ma perché... no, ma mandi lì uno che tiene il microfono e basta. Uno fa una dichiarazione, poi monti un servizio in cui fai finta. Ma perché devi costringere le persone? persone, magari brevissimi colleghi, a fare delle cose che sono contro natura, no? Contro natura. Questo è il punto, costringere i colleghi, sì, mettere i colleghi nella condizione di non fare il lavoro, cioè le domande, questo è il punto, esatto. Questo avviene però nella TV di Stato, ma dirlo. Assolutamente, assolutamente. Oddio, insomma, non è che poi negli altri telegiornali si facciano interviste così, diciamo. Quello era Pierluca. Le interviste che fanno scappare i politici. Allora, uno è Michele Renzulli e l'altro è Pierluca Terzulli. La cosa è abbastanza curiosa, il fatto che comunque c'è un Zulli finale. Mentre l'altra è Livia Ronzulli. Oh, basta con questi paragoni. No. Vabbè, Berlusconi, Repubblica Giudiziaria commissariata dalle procure. Gli italiani assistono a questa vergogna nazionale e condividono la nostra opinione di essere una repubblica purtroppo giudiziaria commissariata dalle procure. Di Pietro, che diceva di voler cambiare registro, siamo al golpe sulla questione. Beh, del federalismo, immagino, siamo al golpe. Ma come il non è? È stato chiamato a esprimere un voto, non ha dato parere favorevole a una legge, a un decreto legislativo. Il governo si è assunto la responsabilità di farlo lo stesso, in uno Stato di diritto, in un paese a democrazia parlamentare. Quando il governo addirittura fa dei provvedimenti avendo forza di legge contro il volere del Parlamento e senza il parere favorevole del Parlamento, siamo o non siamo al golpe? Allora, intanto dovevamo chiedere l'ultima cosa al signor Rosso, cioè cosa gli ha offerto Berlusconi in questa settimana, se gli ha offerto qualcosa o meno. Eravamo rimasti appesi a questo particolare, adesso lo richiamiamo subito. Prima, Di Pietro versus Castelli, della serie scontri epocali, scontri imperdibili. Credo anno zero, sì, fai l'ingegnere che ti viene meglio, impara a leggere e scrivere, altissimi livelli. Il parlamentare diventa pubblico ufficiale quando sia ministro. Ergo è in re ipsa che se io faccio un reato di concussione non posso che farlo la mia veste di ministro. Castelli. Ergo Di Pietro Castelli, cerca, fai l'ingegnere che ti viene meglio. Lui cerca di confondere e qui allora vi reggo l'articolo. Voi cosa ridacchiate, non sapete il cacchio. Imparate, no? Ma fai l'ingegnere concussione, che ti viene meglio, Castelli. Il pubblico Castelli, fai l'ingegnere. Tu impara a leggere e scrivere prima di fare le cose, poi io so leggere e scrivere la meglio di te. La funzione del ministro, articolo 96 della Costituzione. Cosa vuoi avere adesso come aperitivo? Il parte cominciato. Non può mancare il bocchino del giorno, non può mancare, via. Chi ha detto? Sesso è bello, è piacevole, si può fare ma si può pure non restare incinta. Bocchino con quel cognome, con quel cognome dovrebbe essere più prudente. Beh, questa non è male, eh. Come battutista è formidabile, eh. Potrebbe essere scritturato magari anche come politico, non lo so. Non so come valutarlo effettivamente, dalla produzione legislativa, da non so che cosa. Comunque, Ruby abbandonata, l'Egitto ci doveva dichiarare guerra. Guarda che non è male, eh. Senti. Dopodiché la nipote di un capo di Stato, per evitare un incidente diplomatico, si va su un marciapiede di fronte, la Minetti l'abbraccia, la bacia, la saluta e la dà in mano a una prostituta brasiliana. Ma se Berlusconi vuole evitare... Ma così ci dichiarava guerra l'Egitto, se era davvero nipote di Mubarak. Poi posso dire l'ultima cosa, di Didascalia. Gli ha portato pure sfiga a Mubarak, sta balla di Berlusconi. Minchia, che sfiga. Gli ruba le battute a travaglio ormai. Sì, prendiamo la battuta, però l'etichetta è pericolosissima. Giustamente dice Santoro, c'è travaglio per fare le battute, no? C'è travaglio. Ruba le battute. C'ha ragione Bocchino, però, c'ha ragione. Cioè, attraverso le battute e l'ironia si dicono delle cose vere. Sì, certo. Massimo, provincia di Massa, buonasera. Buonasera a lei. Pronto? Dica. Buonasera, senta, una premessa al discorso delle interviste, che sono sempre molto prone al potere del momento, ma guardi che comunque si assistono certe volte a delle interviste ai parenti di vittime di qualcosa, cosa prova in questo momento, cioè il problema è che forse c'è troppa... Beh, scusi, però un'intervista alla vittima di qualcuno in cui uno chiede cosa prova in questo momento mi pare una domanda... È una domanda assolutamente idiota, mi permetta. Ma poi perché è una domanda idiota? È una domanda, diciamo, normale, diciamo, fa parte, potrebbe essere la prima domanda, poi uno chiede dell'altro, ma mi sembra scontato. Cioè, io, guardi, le garantisco, se mi chiede cosa prova, ma dico, cosa provo? Ho capito, ma lasciamo perdere questo, cosa vuole dire sulla storia delle interviste, scusi? Sulla trasmissione, che a me sembra che stia diventando sempre più autoreferenziale, cioè non capisco veramente, a parte che certi interventi molto acuti, anche da parte del dottor Parenzo, che è persona arguta, ecco. Però non capisco cosa, dove si voglia parare a questo. Ma non vogliamo parare da nessuna parte, scusi, sì, Massimo. Non è che abbiamo l'obiettivo, non è che abbiamo l'obiettivo di cambiare il paese noi. Non deve parare, cioè... anche c'è anche Parenzo in studio, dico, e non parla da nessuna parte. Dico, ma quando c'era Luca Telese, che purtroppo, ahimè, è stato decapitato. No, non è stato decapitato per niente. Nessuno è stato decapitato, mi sembra esagerato. No, da lei, no. Ma non c'è stata nessuna decapitazione, guardi, da parte di nessuno, non si preoccupi, Massimo. Ma io sono serenissimo. Mi domando, dico, ma che senso ha? In tutto questo bailamme di questo alzare la voce da parte dell'una dell'altra parte dove non si capisce, che senso ha? Una trasmissione dove si inizia con ridolini, scherzettini, oddio, cioè Massimo, poi mi spiegherà meglio dopo la borsa. Intanto volevo chiedere a Roberto Rosso ancora, onorevole Rosso, ma quando lei nelle ultime settimane ha parlato con Berlusconi, qualcosa le è stato offerto per tornare nel PDL, per abbandonare Futuro Libertà? Berlusconi è stato sempre molto gentile con me, nel senso che il giorno che io comunicai, il 4 novembre scorso, quando comunicai che avevo aderito a Futuro Libertà, lui volle che passasse da lui, mi rimproverò dal suo punto di vista, ma stemmo... cioè cosa le disse? Cosa le disse? No, per un'ora e mezza, devo dire, era anche strano perché era la sera nella quale Berlusconi preparava il discorso per il suo direzione nazionale, e siccome in quel partito di direzione nazionale se ne fanno molto poche, aveva convocato tutti i dirigenti del partito, e stette per un'ora e mezza con me, certamente cercò di farmi tornare indietro, però fu veramente gentile e carino. E poi devo dire, ancora dopo, in occasione del voto di fiducia, cercò di convincermi a non votargli la sfiducia. Ma come? In che modo? Le disse, che ne so, le offrì qualche incarico, c'è niente di male, è la politica. No, me le dico sinceramente, io sono stato nel governo Berlusconi come sottosegretario, sì. Non è che fare il sottosegretario cambia la vita una persona, sono stato a lungo deputato, è la quinta legislatura che faccio, ho quasi 50 anni, quindi allora? Ne ho viste veramente tante, però le devo dire la verità, non è che un posto di sottosegretario cambia la vita o cambia la prospettiva, Io credo che ognuno di noi ragioni un pochettino su quelle che sono le sue ragioni ideali, i suoi valori. Dunque non le ha offerto mai nulla, di concreto, o sì? Ma sicuramente se fossi passato con lui probabilmente un posto al governo me l'avrebbe dato. Ah, ok, ho capito. Dunque è successo, gliel'ha detto esplicitamente. Non è che fu la ragione della telefonata, cioè io mi ricordo quando mi telefonò in occasione del voto di fiducia, mi telefonò due o tre volte ripetute, è chiaro, accennò anche questa possibilità, però da parte mia ritenne che invece dovesse esserci una coerenza con quello che ho assunto come impegno confine. Va bene, grazie. 19:31, borsa, torniamo subito. Everybody bunga bunga party! Eccoci qui, caro Parenzo, quanto ci manca. Ieri dillo. Lunedì ospiti qui a Radio 24, in questi studi, sono un po' i nostri, non dico mentori perché non è di questo, ma insomma, le nostre muse, come dire, le nostre muse, no? Si può dire? Assolutamente. 800 24 00 24, questa è la Zanzara, inconfondibilmente la Zanzara, dopo l'onorevole Marco Rosso, ancora qualche ascoltatore, però vi voglio fare sentire quello che ha detto Lele Mora ieri ad Alba Parietti. Non vi spaventate, perché sono confessioni molto private, insomma, di Mora. Iniziamo da una cosa politica, però. Mai presentato escort a Berlusconi. Prima di presentare l'escort a Berlusconi, ci faceva un diretto lei? Allora, prima di tutto non ho mai presentato escort a Berlusconi. Al massimo da Berlusconi sono stato a casa sua a cena, con delle mie artiste, delle mie amiche, dei miei amici, eccetera, eccetera. Di escort, neanche l'ombra. E vabbè, questa è una difesa d'ufficio, diciamo, no? Perché c'è un'inchiesta in corso. Vi interessa sapere la della sessualità di Lele Mora? Beh, parecchio, insomma. A te interessa parecchio, eh? No, ma è un tema di spettacolo, un tema che non attira le indagini, credo. Però No. Sono bisex. Sono bisex dentro casa o ognuno fa quello che vuole? Sì, boh, non lo so se sapevo. Comunque. Io sono bisessuale. Sì. E quindi hai. Sono stato sposato. Buona moteur. Ho avuto due figli, tantissimi rapporti. Gay, la parola lo dice, un uomo essere un Gaia. Uomo libero, gaio, allegro, libero. Libero di far sesso con chi vuoi. E quindi prevede la bisessualità. Meglio donna o meglio uomini? A casa mia credo che sia bello portarmi chi voglio e fare sesso con chi voglio, senza renderlo plateale. Quando si fa in casa e non dai fastidio a nessuno tra le tue mura domestiche, credo che sia la cosa migliore. Ho pagato notti d'amore con uomini, insomma, ha pagato uomini per stare con lui. Lele Mora, uno degli amici più, non dico più fidati, una delle persone che hanno... In questo periodo più sono state vicine a Berlusconi. Sì, sì. Tu hai mai pagato una notte d'amore? Una sola. Però? Tante. Con uomini o con donne? Con uomini. Sai che sei la prima persona che io conosco che ammette di aver pagato? Certo, dov'è il problema? Non faccio l'amore da 2 anni con una donna. Quando è l'ultima volta che hai fatto l'amore con una donna? 3 anni fa. Questa è una grossa sorpresa. Amore, è un vizzetto, quindi. Dunque, io sono 2 anni esattamente che non faccio sesso. Non faccio sesso per motivi di salute, perché ho fatto delle cure che mi danno queste pillole che ti tolgono lo stimolo. Desiderio, quindi il contrario del Viagra. Esatto, io non prendo né Viagra, prendo questi tranquillanti. Beh, insomma, ha detto una cosa un po' diversa, ma insomma non è molto interessante. Da 3 anni non fa sesso, da due anni non mi ricordo più, insomma, quello che avete sentito. Va bene, ho letto su Panorama di oggi una cosa che riguarda due politici, uno del PDL o una del PDL e una del PD. Cioè, secondo te in questo momento, caro Parenzo, è possibile che una persona molto vicina a Berlusconi, molto molto vicina, abbia una relazione sentimentale, non so di che altro tipo, con qualcuno del Partito Democratico? Ma oddio, il corno si comanda. Io ricordo un bellissimo film anche della Lina Wertmüller, no? Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica, o un altro film della Wertmüller che raccontava proprio di questi amori trasversali. Ma chi c'è del cuore? Tu dici, comunque certo è curioso. Leggo questa cosa qui. Speriamo non abbia firmato l'appello delle donne, quella del PD. Sì, sarebbe curioso. Silvio Berlusconi e Pierluigi Bersani non riescono a stabilire un contatto su Indiscreto di Panorama, ma la prova che fra deputati PD e PDL possono esserci intese, almeno sentimentali, c'è. Una delle deputate più vicine al Cavaliere ha da alcuni mesi un feeling con uno degli uomini più legati a Bersani. I due, assicurano fonti bipartisan, sono a un passo da rivelare la loro relazione e sono innamoratissimi. Esattamente l'opposto rispetto a quando vanno in TV. Lei una leonessa in difesa del Premier, lui un leone contro il governo. Misteri dell'amore. Ora, naturalmente, è scattata la caccia a questi personaggi. Io credo, ma forse lo rivelerò più avanti, anche se non ne sono certo, di avere scoperto chi è lei, che è la leonessa in difesa del Premier. Questo è uno scoop, eh? Scoop clamoroso. Però scoop. C'è un precedente. Qual è? C'è un precedente politico di amore trasversale, visto che siamo su questo tema, tra l'onorevole Carolina Lussana della Lega Nord, sì, che si è sposata con un deputato dell'UDC meridionale. Sì. E ciò destò uno scandalo incredibile tra i leghisti. Passò un periodo in cui anche a Radio Padania chiamarono, non è possibile. Quindi capisci che la questione è una questione vera, una questione non politica, ma comunque. In questo momento di grande tensione politica, in cui il PD sostiene che Berlusconi è una sorta di mostro che va abbattuto per la democrazia, per salvare la democrazia in Italia, certo, poi uno ha una relazione con una delle persone che difendono in televisione, eccetera, eccetera, il Presidente del Consiglio. Dunque, diciamo la verità, riveliamo subito una cosa: la lei è del PDL, lui è del Partito Democratico, almeno questo lo possiamo dire. Poi da qui alla fine della trasmissione cercheremo di dare di fare nomi e cognomi, almeno di una persona. Questo è forte, fortissimo. Andiamo agli ascoltatori. Massimo, provincia di Pisa, buonasera. Dica. Pronto? No, provincia di Massa Carrara, comunque cambia poco. No, cambia. Senta, no, riprendevo il discorso di prima, nel senso, non capisco, a parte che si può dire tutto sull'intervento di ieri sera della signora della Rovere dopo il teatro, neanche fosse Gassman, no, con la faccia, però voglio dire, quando che senso ha riandare sempre a rimangare su queste cose dal bunga bunga, non bunga bunga e Bersani e cosa, quando c'è un'indagine giudiziaria in corso, non sappiamo nulla, c'è stata una dichiarazione iniziale di una persona al di sopra delle parti, che era la moglie del nostro premier, che aveva fatto certe affermazioni, cioè poi possiamo rivoltare, possiamo anche sentirci la Parietti, le inutili interviste della Parietti al signor Mora fino al domattina, ma dove vogliamo comunque, a cosa giova tutto questo? Veramente io glielo chiedo, perché lei è persona intelligente e arguta, e insieme a lei sì, il dottor Parenzo, però a cosa giova tutto questo? Cioè vogliamo prendere in giro questa situazione? Benissimo, diciamolo chiaramente. Ci stiamo prendendo troppo sul serio, vogliamo abbassare il livello del coso? Ma no, guardi, il problema è molto semplice. La questione delle feste di Berlusconi, bunga bunga, per noi, e glielo dico, per noi che facciamo trasmissioni che sono un po' leggere, ma anche semiserie, sono una grande manna, io lo confesso, sono una grandissima manna. Dopodiché evidenziano un problema, non si può nascondere, non è solo gossip, evidenziano un problema che è quello del comportamento privato di un uomo pubblico, che non è poi così privato il comportamento, nel senso che per un uomo pubblico la trasparenza deve essere essere assoluta, per cui insomma in realtà poi si possono affrontare in diversi modi, le si può affrontare ridendo, scherzando, ragionandoci sopra, noi cerchiamo di fare un po' tutto questo insieme, potremmo riuscirci, possiamo anche non riuscirci. Buon lavoro a voi e buona, intanto continuerò ad ascoltarvi. Grazie. Il sindaco di Firenze Matteo Renzi, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, sindaco Renzi, a tutto mi confessi una cosa, si sta continuando ad allenare dopo la maratona di Firenze oppure come tutti quelli che fanno una botte via e poi basta? Una botte via detta così dopo l'ultima intervista, dopo l'ultima telefonata era preoccupante, diciamo che... No, la botte via era sulla corsa, naturalmente non era sul senso. No, faccio per precisare, ecco. Ecco, insomma. No, per carità. No, ho riniziato con Ricchio 3 volte la settimana, un'oretta, quindi sono non in grado di fare un'altra maratona, ma... Però, insomma, la costanza c'è, questo è anche perché ero subito ringrassato in modo squallido, e quindi ho già ripreso 4 kg adesso. Siamo nel programma Chi se ne frega show in questo momento, di quanto sono ingrassato e dimagrito io, però insomma ho iniziato a correre. Bene, senta, mi dica una cosa, lei queste firma, la firma sotto l'appello del PD per i 10 milioni per le dimissioni di Berlusconi, l'ha messa o non l'ha messa? Intende metterla o non gliene frega niente? No, do la risposta a entrambe, nel senso che non me ne frega niente, la metto come la mettono tutti gli iscritti del PD, nel senso che è un'iniziativa che il Partito Democratico sta facendo e che io considero propriamente non la cosa più... Cioè, Berlusconi non è che va a casa se Bersani gli porta una richiestina di firme, però è un'iniziativa di partito che viene fatta dal PD, da Bersani, dalla dirigenza del partito e cioè, hanno deciso di fare questa qui, va bene così insomma. Quando ha firmato? Non mi faccia far polemica col PD tanto per cambiare. No, deve far scusi, sento dalla sua voce che non mi sembra, lei dice un'iniziativa. Lei mi ha domandato, l'ha firmata o non gliene frega niente? Io le rispondo, tutte e due. Dunque, non me ne frega niente nel senso che non porterà nulla. Beh, insomma, se Berlusconi va a casa non credo che vada a casa perché Bersani gli fa la petizione, insomma. Ecco, penso che detto questo, detto che... E perché ha firmato allora, scusa? Perché nel momento in cui il partito fa un'iniziativa di questo genere, di mobilizzazione degli iscritti, eccetera, è giusto che tutti gli iscritti, anche quelli che hanno responsabilità, in un partito diano una mano, questo credo che sia... Se serve agli quando... iscritti, se la mettiamo dal punto di vista... Un attimo, Parenzo, un secondo... Fermo lì, dal punto di vista politico io penso che sia importante quello che ci diciamo sempre, e cioè che ci sia la capacità da parte della sinistra, del centro-sinistra, che ha come vuole, di essere credibile come alternativa a Berlusconi, non per le cose che Berlusconi fa di notte ad Arcore o a Villa Certosa, ma per la capacità di raccontare, per le cose che Berlusconi non ha fatto di giorno, cioè per i limiti all'azione di governo, e contemporaneamente di raccontare un progetto credibile per cui il centro-sinistra non vinca le elezioni e poi vada a casa dopo 2 anni, come è accaduto quando era nel 2006-2008. Senta sindaco, la firma materialmente quando l'ha messa? Perché la cosa non è... Non l'ho ancora fatto, lo farò nelle prossime ore. Nelle prossime ore, cioè entro oggi? Ma che ne so, non lo so. No, ma così, per quello, siccome lì... Io sono a fare, se le può, se la può interessare, sono in Palazzo Vecchio. Appunto, siccome c'è un... Palazzo Vecchio non... So che si raccolgono le firme anche a Palazzo Vecchio, o no? No, non credo. Non c'è un banchetto per le firme? Scenda giù a firmare. Palazzo Vecchio non c'è. Portate al sindaco Renzi un appello a qualcuno dei banchetti Palazzo del PD Vecchio a Firenze. Intanto sto guardando con i dirigenti del bilancio e del patrimonio i numeri del bilancio 2011. Benissimo, intanto tra una pausa e l'altra. Portate un modulo al sindaco di Firenze per firmare l'appello di Bersani, che ha detto prima che non gliene frega niente, non porterà nulla, però per obbligo di partito, per, come dire, per rispetto nei confronti di Bersani, come vogliamo dire? Lo farò in un banchino in piazza, non lo faccio nella sede di Palazzo Vecchio. Perché è sbagliato nella sede di Palazzo Vecchio? Nella sede di Palazzo Vecchio sì, assolutamente. Il Palazzo Vecchio è una sede istituzionale, non si fanno queste cose. Quando sono in Palazzo Vecchio faccio il sindaco, quando sono fuori da Palazzo Vecchio faccio... il militante come gli altri, e quindi Palazzo Vecchio ragiono dei numeri del bilancio, sì. 163 milioni di euro di prestazioni di servizi, tutte queste cose così appassionanti, cercando di capire dove taglio per il prossimo anno, certo. E poi quello è in corso. Senta un attimo, ma se fosse stato segretario del Partito Democratico, lo so che è una domanda che per metterla un po' in crisi, però mi capisca, questa iniziativa l'avrebbe fatta quella sulle firme o no? No, perché in crisi io non l'avrei fatta. Avrei fatto altre cose, però l'ha fatta, è giusto che un dirigente del partito non si tiri indietro, ma dopodiché non credo che sia la firma, le 10 milioni di firme a convincere Berlusconi ad andare a casa. Anche perché le 10 milioni di firme, insomma. Anche perché raggiungere 10 milioni di firme mi sembra un po' complicato, soggettivamente, o no? No, beh, quello però è un problema che non mi riguarda. Allora, traffico, torniamo subito, 800 24 00 24. Caro Parenzo, mi hai talmente messo in testa questa storia del traffico, adesso dico traffico sempre anche quando non c'è il traffico, cioè sei una cosa pazzesca. Cioè, borsa, traffico, interruzioni, con noi da Firenze, dentro Palazzo Vecchio, il sindaco Matteo Renzi, a proposito di appellite, questa malattia, un po' di giornali, alcuni politici, io lo chiamo così, ma è un mio giudizio, quella cioè di mettere sempre firme, fare appelli, quello sulla dignità delle donne, che a me pare un'altra follia, lei l'ha firmato, lo firmerà, non gliene importa niente? No, questo non l'ho neanche visto. Detto questo, sulla dignità delle donne non so come, qual è, diciamo, la discussione in corso, penso che dovrebbe aiutarci a fare un passo in avanti, perché a me sa qual è la cosa che più mi ha colpito in questi giorni, no? Nelle discussioni post intercettazioni, sì, diciamo, delle bunga bungheschi, si dice, sì. Sì, insomma, bunga bungheschi. A me ha colpito molto una cosa, cioè l'atteggiamento che hanno avuto alcuni familiari delle ragazze che avrebbero partecipato, tutti, diciamo, sì, tutte le prudenze del caso, avrebbero partecipato a queste serate, che hanno sicuramente partecipato alle serate, poi cosa sia successo, qualcosa che accerteranno altri, però mi colpisce molto nel leggere le intercettazioni, i commenti di alcuni familiari, la mamma che dice vai, dagli sotto che se no ti passano avanti, o il babbo che dice magari mia figlia fosse la fidanzata di Berlusconi. Ma la stupisce questa cosa? A me non mi stupisce per niente. Poi sì, mi colpisce. Cioè, non credo che dobbiamo... Sono come quei padri che vogliono che i bambini diventino dei fenomeni a calcio, è sì, la stessa sindrome. Quando vai in campo e c'hai la mamma che urla, ammazzalo! Esatto, che differenza c'è? Quello c'hanno una bella figlia, ma vuol dire, non sto dicendo che sia che io lo farei, non no, lo farei mai. Se mi permette, su questo tema io esprimo non una valutazione di natura, detesto i moralisti senza morale, no? Quelli che fanno la morale e basta, però se mi permette questo è un atteggiamento che mi sembra dovrebbe far riflettere il paese. In realtà, se si ricorda, due o tre anni fa, forse tre anni fa, solo se il Financial Times, mi pare, fece una copertina, una copertina, sì. Financial Times non fa copertine, una copertina proprio su questi temi, c'era una bella immagine di una velina italiana e la discussione sul ruolo del corpo femminile, sì, nella società pubblica italiana, sì. Mi piacerebbe ragionare di quella inglese o di quella americana, ecco, no? Appunto, insomma. Ceccio parla male di straccio, si dice a Firenze. Però questo è l'unico argomento sul quale sarebbe interessante fare una discussione. Senta, cioè, sindaco, ma lei alla manifestazione delle donne là del 13 eccetera, ci andrebbe, non ci andrebbe? È utile una manifestazione di questo tipo? C'è bisogno di farla? Lei mi fa fare l'elenco delle appellite, se sono se ci sono delle persone che hanno ritenuto di farla, probabilmente no, quello d'accordo, ma lei la ritiene utile, nel senso che è una cosa che partecipa o no? Per esempio, anche là il segretario del suo partito ha detto sì, bisogna partecipare, è giusto, eccetera. Lei... Ascolti, Lei ci va o no? A me mi pagano per fare il sindaco, per cercare di lavorare per la città. Se lei mi domanda se partecipo a tutte, io solitamente alle manifestazioni non ci vado praticamente mai. Ma in televisione ci va però, insomma, non è che... Sì, meno di quello che dovrei probabilmente, però questo è un altro discorso. Dal mio punto di vista le dico, se ci sono degli organizzatori che chiedono di fare una manifestazione su questo, vuol dire che è un'esigenza che esprimono e che mi sembra giustissimo che la facciano. Non è che è obbligatorio partecipare per iscrizione a un partito. Però c'è bisogno di firmare un appello per la dignità delle donne, su queste cose qua, cioè sono battaglie che vanno fatte attraverso questi strumenti. No, cioè, Berlusconi è un modello negativo da questo punto di vista? Nel rapporto con le donne, diciamo, l'idea del modello culturale che Berlusconi esprime mi sembra quantomeno discutibile, spero che lei apprezzi l'eufemismo, nel senso che è del tutto evidente che Berlusconi ha una, quando Berlusconi riceve il primo ministro, cos'era, albanese, e fa le battute, come Berlusconi ha sempre fatto nel corso della sua esperienza anche quando era primo ministro, contribuisce a creare un concetto, un cliché che io non sento mio, cioè io non lo sento mio. Dopodiché non credo che sia questo il punto sul quale la politica debba confrontarsi oggi. Ho capito. Parenzo, cosa vogliamo chiedere? Qualcosa sulla primaria di Napoli? Che dici? Anche se è un'altra cosa. È bello perché a me l'ufficio stampa mi ha detto parlate di federalismo fiscale. Beh, allora si è fatto l'appellite. No, federalismo. No, sai, l'ufficio stampa. Tema noiosissimo. Federalismo. Non so chi ha detto federalismo fiscale. Forse era. No, federalismo fiscale. Vogliamo entrare nel dettaglio del federalismo fiscale, per carità, una cosa. La gente potrebbe addormentarsi qualcuno. No, qui interessante. Invece secondo lei sulle primarie di Napoli si sveglia? No, sulle primarie di Napoli no, nemmeno sulle primarie di Napoli. Su Bunga Bunga. No, è più interessante questa concezione che ha il sindaco Renzi del partito, no? Perché giustamente lui dice gli appelli non servono a niente, quindi bisogna trovare altre forme sostanzialmente più utili per fare politica e creare consenso anche tra i propri iscritti. Le primarie ovunque si sono fatte sono un disastro. E quindi la domanda no, questo non l'ha detto, questo non l'ha detto. Chi l'ha detto questo? No, questo io al primario devo mettere un cero, cioè se non c'erano le primarie a quest'ora mi avevano già mandato. Ecco, ma a Napoli come se ne esce secondo lei, Renzi? Come se non dovrebbe uscire? Io credo che le primarie vadano organizzate, cioè il centro-sinistra ha purtroppo perduto l'occasione, perché nel momento di difficoltà del centro-destra noi abbiamo offerto con la discussione abbastanza triste di Napoli un assist ai nostri avversari interni, avversari interni ed esterni, mi sembra del tutto evidente. Penso dal mio punto di vista che le primarie siano uno strumento bello. È chiaro che se qualcuno fa il furbo durante le primarie, e io non so se qualcuno l'abbia fatto e non mi chieda perché non ho proprio la minima idea di ciò che è accaduto a Napoli, il problema è a monte, cioè tu devi organizzare le primarie e garantire che non ci siano dei giochetti e dei giochini. Detto questo, le primarie sono assolutamente meglio che non la scelta, diciamo, di tre o quattro che si mettono insieme e dico il sindaco lo fa Tizio o Caio. Cioè l'alternativa alle primarie è la scelta da parte della casta. Le primarie sono l'unico strumento, l'unico antidoto alla, mi scusi l'espressione squallida, castizzazione della politica. Senta, però mi scusi, è quello che dice lei è vero, però a questo punto si dovrebbero rifare oppure è inevitabile che il partito scelga un candidato? Perché potrebbe esserci addirittura una soluzione. Non mi faccia dire cose, non conosco la vicenda di Napoli, non mi ci metta nel mezzo. Io so che sono rimasto colpito in negativo non dalla castizzazione ma dal casting che è stato fatto alle elezioni, si ricorda, quelle del 2008, cioè che non è che l'abbiamo fatte solo noi del centro-sinistra, l'hanno fatte anche il centro-destra. Hai bisogno di Tizio? Metto una bella ragazza qui, metto un giovane precario di qua, metto l'operaio e metto l'imprenditore, metto l'uomo che parla al nord-est e quello che ascolta il sud-ovest. Si ricorda quella discussione, no? Che ha portato le candidature in Parlamento più o meno a livello di una sorta di nomination per il Grande Fratello. Ciascuna forza politica si sceglieva alcuni personaggi perché non c'era né la preferenza, che è tipica della lista subproporzionale, né il collegio uninominale, che è tipico dei sistemi maggioritari. In altri termini, si è consegnato al gruppo stretto dei dirigenti dei singoli partiti la possibilità di mettere in lista chiunque loro volessero. Bene? Allora, le primarie sono l'unica alternativa al momento, a meno di non tornare ai collegi, ma anche nei collegi sarebbe a quel punto interessante fare le primarie, sono l'unica alternativa per evitare che ci sia un Parlamento di nominati. Perché le dico questo? Perché poi lei non è che si può arrabbiare se il parlamentare, mi scusi, ora dico una parola forte, si vende. cioè non è che tu puoi dire ah è una vergogna, questo si era candidato con noi e poi è passato di là. Come l'hai scelto? Chi gli ha dato il consenso elettorale? Senta, dica il povero elettore del partito che ha votato una lista bloccata. Dopo la pubblicità le chiederò un'altra cosa che riguarda gli ascoltatori, le chiede di Arco. Guardi, questo mi rivolgo a un ascoltatore che mi ha scritto adesso, caro ascoltatore, che dopo la visita ad Arco, noi l'abbiamo chiamato e già ci ha spiegato perché è andata ad Arco, vogliamo richiedere ancora una volta questa vicenda di Arco, perché è andata a casa di Berlusconi, è una noia mortale, cioè, ha già spiegato, ci andrei per Firenze eccetera, se vuole glielo richiediamo, ma non mi sembra che sia il caso. Dopo la pubblicità torniamo a 800 24 00 24. Eccoci, Parenzo, però una domanda sul federalismo, anche se l'argomento di una noia mortale la possiamo fare al sindaco Renzi, ed è questa. Sindaco, lei pensa che senza Berlusconi, perché mi pare che l'obiettivo anche del suo partito, qualsiasi cosa si proponga in questo momento, per carità, è legittimo e non federalismo possibile, sarebbe semplice? Sindaco? Ma io credo che senza Berlusconi sarebbe tutta un'altra realtà, perché salterebbe il centrodestra, perché si riaprirebbe tutto. È difficile immaginare uno scenario politico oggi senza Berlusconi. Oggi Berlusconi è ovviamente il capo del centrodestra, ma contemporaneamente è una sorta di grande punto di riferimento per l'antiberlusconismo di sinistra. In realtà molti della sinistra, molti dei dirigenti della centrosinistra trovano la propria forza e ragione di esistere per il fatto che ti piace Berlusconi. Per esempio? Voglio dire, senza fare nome e cognome, tutti quelli facciamo. Che vivono di antiberlusconismo. Per esempio, chi è che vive di più di antiberlusconismo? Ma l'ha visto come sto diventando bravo, benino, che cerco di fare sempre meno polemiche possibile. Appunto, no? So. Come? lo so, invece noi abbiamo l'obiettivo contrario, come lei sa. Allora, il problema del federalismo, io credo che la vicenda sia stata, ovviamente si è passata dalla discussione tecnica, esatto, a quella politica. Ed è naturale, perché del resto Maroni fa un'intervista e dice signori, se qui non c'ho, vale dire, l'hanno trasformata tutti in questo senso. C'erano dei partiti anche dell'opposizione, non il mio, che però avevano votato a favore o comunque si astenevano, che erano disponibili a fare l'accordo, e che poi penso a Di Pietro, alle TV, ad altri. Vabbè, non è che un'intervista può cambiare le cose, insomma, in realtà si è innescato. Ma l'intervista di Maroni è in generale, cioè si è caratterizzato la tenuta del governo su questa strada del federalismo. E dopodiché sono tornati alle solite sceneggiate che il centrodestra sta facendo da un anno, o da un anno un po' meno, via, da qualche 8 mesi tutti, e cioè da quando è partita la bambola Berlusconi-Fini. Questo è il vero problema che in questo momento è in corso, perché se lei vuol parlare degli argomenti concreti, Lanci ha già detto alcune cose nel merito del problema. Sì, però come lei dice giustamente, la discussione, e come giustamente Oscar Giannino questa mattina faceva notare qui su Radio 24, non si è parlato a un certo punto più del merito e c'è stata la solita contrapposizione politica, diciamo. Però se questo è il problema vero della discussione sul federalismo di oggi. Senta, una cosa molto più leggera, ed è questa, una cosa di calcio, vabbè, interessante, una cosa di calcio, il reintegro di Mutu, lei è contento? Ma è una vicenda un po' strana quella, perché Musso è un grandissimo calciatore, ma ha dimostrato in questi primi mesi, diciamo in quest'ultimo anno, ne ha azzeccate pochi. Ora lui ha scaricato il procuratore e pare che questa cosa lo abbia rimesso sulla giusta strada. Speriamo che sia così, ma guarda, lo dico innanzitutto per lui, perché un ragazzo di 30 anni che vive in quel modo ha bisogno di rimettersi in ordine. Poi la Fiorentina, mi pare che sia destinata quest'anno a una stagione di transizione, era importante battere il Genoa ieri l'altro quando è stato completi. Vediamo se riusciamo a toglierci alla svelta dalla zona bassa della classifica. E poi anno di transizione. Non è solo la Fiorentina, credo, di aver capito. No, per carità. Come il PD, cioè transizione. PD è qualcosa più che un anno di transizione, se si sta attenti. Non vorrei che fosse pronto al transito, quindi bene che sia invece più. C'è al trapasso, dice lei, al transito, nel senso del il transito è anche un'espressione, diciamo, vabbè, più locale, ma va bene il concetto del trapasso, ma il trapasso. Cioè, che si dica transito, l'espressione locale, scusi? Le dico questo, le sembra normale che a fronte di un governo in quella condizione di difficoltà di cui abbiamo parlato fino ad oggi, no? Di Berlusconi contro Fini, di maggioranza risicata, quasi inesistente, eccetera, eccetera, eccetera, il PD non riesca a guadagnare voti. È segno evidente che quel grande tema della rottamazione, che vuol dire il ricambio, che vuol dire il cambiare facce, idee, linguaggio, parole d'ordine, forse è più urgente di quanto anch'io e che anche noi stessi pensassimo 8 mesi fa. Senta, però fa. Beltroni pare che si voglia ricandidare alle primarie. Secondo lei è una cosa da non fare, una cosa di questo tipo? Ma credo che siano più anticipazioni giornalistiche. Ad oggi il punto vero è capire se rifaremo le primarie, come io spero, o se qualcuno immagina di cancellarle proprio. Però prima di ragionare delle primarie, proviamo a capire se il PD torna a quello spirito per il quale deve essere un partito che fa delle proposte concrete, parla un linguaggio comprensibile, non fa tutte le solite analisi sociologiche, culturali che nessuno capisce. Non fa la raccolta di firme. Non fa la raccolta di firme. Ma insomma, se fa una raccolta di firme in meno, una raccolta di idee in più, è quasi meglio. Beh, questa non è male, questa non è male. Direi che insomma, non, lei è così è stupito dal fatto che le invitano molte televisioni cosiddette berlusconiane, cioè che lei è invitato a Chiambretti. Si riferisce berlusconiane, il TG1, non ho capito. No, però ho letto da qualche parte che insomma, ultimamente poi io non è che vedo la trasmissione alla quale sono andato di più quest'anno è Anno Zero, perché non mi sembra faccia parte della categoria, però sinceramente io questo periodo... Lei riceve un sacco di complimenti da parte del centrodestra, Berlusconi, Barbara Berlusconi, addirittura ho letto da qualche parte Gianni Bonaiuti a Porta a Porta, che ha fatto un elogio del sindaco di Firenze, una persona moderata. Guardi, io dico questo, non è sospetta dal mio questo punto di vista. Spero che ci sia un dirigente del centro-sinistra, chiaramente di sinistra, come per esempio uno che fa, nel mio caso, che so, il piano strutturale a volumi zero, cioè basta consumo di suolo, o interventi sull'ambiente o sulla cultura, per cui qui a Firenze abbiamo aperto le biblioteche fino a mezzanotte, pensiamo che la sicurezza, insomma, cose proprio profondamente di sinistra. Per me la sicurezza non sono le camionette dell'esercito, per me la sicurezza è una città illuminata bene, che vive, che in qualche modo respira libertà. Bene, spero che ci sia, quando qualcuno della sinistra o di questa sinistra qui, che non vive di rimpianti ma prova a immaginare il futuro, ottiene un po' di consenso dall'altra parte, io non penso che questo sia un problema, per un motivo molto semplice, che le ultime elezioni il centro-sinistra le ha perse, per cui se vuole vincerle le prossime deve riportare a votare i suoi, ma anche conquistare voti dall'altra parte. Non credo che sia alto tradimento se prendi i voti del centro-destra. Però molti le danno del traditore. Beh, è bastata una frase su Marchionne e si sono scatenati tutti. Questo dipende da loro, perché se tu non riesci su Marchionne, io ho semplicemente detto, e lo rifarei, che noi siamo in una fase in cui da qui al 2030 il nostro paese dentro l'Europa perderà circa la metà dell'attuale fetta di ricchezza che ha. Cioè, se oggi noi abbiamo un terzo della ricchezza mondiale come Europa, si sappia che tra 20 anni avremo un sesto, non un terzo. Allora, o riusciamo a investire sulle realtà economiche e industriali qui, oppure se continuiamo a pensare che bisogna... Ho capito, però stelle a 5 punte, insulti, cioè, quello è successo. Quelle caratterizzano chi le fa, chi scrive Renzi con la stella a 5 punte, come dire, si caratterizza per quello. Sì, che ma non solo questo, anche molte critiche all'interno della sinistra, molto più diciamo, non di quelle da Brigate Rosse. Devo chiudere e allora devo dire che purtroppo non abbiamo più tempo di commentare, che mi ha colpito molto una frase. Io sono un grande ammiratore del sindaco di Firenze, lo confesso qui apertamente. E mi dispiace per lei. Io non so che devo fare, ho questo difetto. Insomma. Non è un reato. Non è un reato, non faccio parte dell'Andrangheta, però mi ha colpito una frase di un'intervista che ha fatto a Max sulla Gelmini. Senti questa frase, Parenzo. Il ministro avrebbe dovuto avere il coraggio di chiudere la metà delle università italiane. Servono più a mantenere i baroni che a soddisfare le esigenze degli studenti. Bravo. E con questa frase faccio un applauso e mando la borsa. Mando la pubblicità. Sindaco, a presto. Arrivederci, grazie. Eccoci, 20:09, ho confessato di essere un ammiratore di Renzi, confesso. Beh, dice delle cose ragionevoli, questa cosa dell'università è una cosa riformista. Sacrosanta. Non mi pare una cosa reazionaria. No, non mi pare la posizione della camorra, ecco. Esatto, ha detto che le università inutili, quelle vanno chiuse, va bene. Anche le cose ragionevoli in questo paese sembrano così clamorose. Sì, poi naturalmente c'è sempre la politica, è fatta anche di un pizzico di demagogia, di presenzialismo, di altre cose, per carità. Nessuno è perfetto, nemmeno il sindaco di Firenze. 800 24 0024, però mi sembra all'interno della sinistra una voce, come dire, diversa, no? Sì. Andiamo a Francesco da Milano. Buonasera. Pronto, buonasera. Sì. Mi dispiace se il mio intervento sarà meno aulico di quello del sindaco di Firenze, perché avete parlato di politica importante, però insomma niente, io volevo semplicemente dire alcune cose relative all'anatema che è stato gettato su tutti noi padri di figlie. Io ne ho 3 di figlie, sono profondamente in disaccordo, chiaramente, perché non c'è da preoccuparsi, nel senso che è tutta una questione soltanto legata all'educazione che dai alle tue figlie, non è quello che fa il Presidente del Consiglio, non sono le immagini che danno certi personaggi quello che porta a far sì che le tue figlie si comportino in un modo o nell'altro, ma l'educazione che dai. L'educazione è genericamente, secondo il mio avviso, un punto dolente della nostra società, ma si vede non solo dal comportamento delle ragazze giovani, ma anche dei ragazzi giovani, la violenza inusitata, senza motivo, insomma tante situazioni che si vedono in giro che caratterizzano sicuramente un problema di educazione generale. Per quanto riguarda invece nello specifico il problema di Berlusconi, o comunque quello che è successo a Berlusconi, fermo restando che io sono garantista per natura, per cui fino a che non ci sono le prove provate, sono tutte voci, tutte cose che non hanno valenza di prova. Cos'è una voce, scusi? Scusi? Cos'è una voce? Non mi faccia come Formigoni che ha detto le cene o le feste. Ma chi l'ha detto che ci sono state? Beh, addirittura no, le feste, no. Le cene, cioè, mi sembra. Su quello no, almeno quello, siamo d'accordo tutti. Sì, che quello, no, ma quello che volevo dire è che fondamentalmente la discussione nasce o viene montata per una questione giuridica, quindi una questione giudiziaria, e sulla questione giudiziaria io sono garantista. Che poi ci siano sicuramente gli elementi di fatto per cui non si possa che dire che il Presidente del Consiglio ha un atteggiamento di un certo tipo nelle scelte di vita privata, nelle scelte di come sollazzarsi durante le sue ore libere, quello mi sembra abbastanza indiscutibile, mi sembra abbastanza evidente. Però non ne farei, cioè secondo me non può essere considerato un problema nazionale, un problema generale, se non per il fatto che comunque se dovessimo prenderlo come esempio generale dovremmo pensare che se vedessimo una situazione normale di un 72enne, 73 quanti ne ha adesso, non lo so di preciso, che si frequenta con una ragazza di 18-19 anni, molto probabilmente è la sua badante che lo sta irretendo e gli porta via tutti i soldi. Quindi la vittima non sarebbe la ragazza, ma semmai sarebbe il vecchio, nell'ottica generale. Cioè, se ne togliamo il contesto e non pensiamo a Berlusconi come ricco Presidente del Consiglio e lo vediamo nell'ambito generale, sì, è un uomo di 73-74 anni che viene irretito da una serie di ragazze giovani che sfruttano la propria bellezza per irretirlo, perché questo è il concetto. Se noi dovessimo girarlo appunto alla massa, sarebbero sempre i 75 anni le vittime, non certo le 18enne, le 19enne. Beh, insomma, la si può prendere da entrambe le parti, diciamo. Ognuno poi la interpreta come vuole. Io sono da questo punto di vista dell'idea sgarbiana delle mantenute, non delle prostitute, ma questo è un altro discorso. Certo, caro Francesco, devo andare da un altro ascoltatore, da Matteo, che ci chiama da Treviso. Buonasera. Salve, Dica. Buonasera a tutti. Beh, io prendo spunto dall'intervento dell'ultimo radioascoltatore, e che in realtà è quello che avete detto più o meno un'oretta fa, cioè che non bisogna commentare tanto e che a voi, nel senso di, non interessa molto la moralità come categoria del Presidente del Consiglio. Io invece trovo che sia esattamente il contrario, cioè la moralità in fondo è quella che porta il Presidente del Consiglio, così come i nostri parlamentari, a emanare, a proporre delle leggi, quindi a comportarsi pubblicamente in una maniera e nel privato in tutt'altra. Allora? E quindi in realtà ritengo che come il Presidente del Consiglio, ma voglio dire lui, così come Marrazzo, così come molti altri, così anche per chiarire diciamo il campo da lui, così come Fini, che ha detto che qualora si dimostrasse che la casa a Monte Carlo di Giuliani si metterebbe, cioè è più un problema generale in cui si dicono delle cose pubblicamente tutti ineccepibili, chapeau come si dice, poi nel privato invece è tutt'altra cosa, ma voglio dire... poi alla fine nel pubblico la legge sul divorzio, sulla dolce morte, c'è tutta una serie di comportamenti dove ci sono grosse categorie morali in gioco, vedono tutti posizionarsi su, diciamo, su delle barriere completamente opposte. Ho capito, vabbè, insomma, ci vuole riproporre poi il solito argomento del comportamento pubblico e di quello sì, privato. Ma è anche un po' quello che lei diceva prima, perché comunque il personaggio pubblico ha una visibilità superiore e chiedere secondo me un minimo di riconciliazione o coerenza col privato non è granché, non è che uno deve diventare uno spinto di santo, però neanche, voglio dire, poi no, neanche evidenziare una contraddizione clamorosa, su però, questo non però, c'è dubbio. Per esempio, anche su questo, rispetto a quello detto dall'onorevole Rosso, mi pare che il nome fosse questo, io trovo, chiaramente sempre la mia opinione personale, ma abbastanza qualunquista dire che un parlamentare della Repubblica, che seppur costituzionalmente non ha un vincolo di mandato singolo, ma rappresenta tutti gli italiani, non se la senta di votare a favore o contro perché ha un debito morale nei confronti del Presidente del Consiglio, non ha un debito morale nei confronti del Presidente del Consiglio, ha un dovere nei confronti di tutti gli italiani. Sì, ma infatti, però, voglio dire, in questo caso lui è stato anche molto sincero. Sì, è stato molto corretto, tra l'altro poteva anche evitare di dire una cosa del genere. È stato molto sincero, io sono amico di Berlusconi, sul piano giudiziario lo ritengo vittima di una persecuzione da tanti anni, e dunque ieri alla Camera non ho votato per l'autorizzazione a procedere, insomma ho votato a favore della trasmissione degli atti di nuovo a Milano perché penso che Berlusconi debba essere giudicato dal Tribunale dei Ministri, insomma eccetera eccetera, perché non ho voluto infierire su Berlusconi. Per carità, lei dice è sanzionabile perché non deve essere questo il criterio che deve dettare il voto di un deputato. Ma non è sanzionabile, la sanzione è censurabile come comportamento, cioè io mi no sanzionabile, ho detto certo che non dico che è sanzionabile, lei ha detto censurabile, non... ripeto, poi Cozzani, per esempio, anche questa cosa che Berlusconi è un perseguitato di 17 anni, cosa che potrebbe anche essere vera, per l'amor di Dio, però è anche vero che su Berlusconi, come sul gruppo media, sicuramente non soltanto su di lui, ma ci sono accuse molto pesanti. Voglio dire, l'onorevole Rosso dovrebbe ricordarsi che di Forza Italia si è detto che forse, magari mi auguro anche che sia falso per il bene ovviamente di tutta l'Italia, che sia un partito nato sulla spinta propulsiva della mafia. Vabbè, ma questa è una puttanata inaudita, scusi. Vabbè, cioè, ci credono 10 persone in Italia a questa roba qui, cioè abbia pazienza. Ci sono molti che non ci credono, tanti che ci credono. Tanti che ci credono, come possiamo credere a tante cose? Perché io chiuderei un po' come riprendo un po' Alfini, che è uscito, fatto vedere l'altro ieri da Mentana al Divo, dove c'era l'intervista di Scalfari a Giulio Andreotti. È un caso che in tutta una serie di situazioni Berlusconi sia sempre in mezzo. Ora, magari è innocente, e io me lo auguro. Ma questa qua è sono supposizioni, chiacchiere che possiamo fare così in libertà, che non hanno nessun tipo, che poi ci sono stati dei contatti tra singole persone di Forza Italia, ma quello è un altro discorso che ha a che fare con i processi eccetera eccetera, così alla radice. Però non si può spingere, poi ci saranno persone che mi citeranno chissà quali processi, chissà quali pentiti, chissà quali storie eccetera eccetera, per carità, tutto vero, tutto su nero su bianco, in chissà quali carte processuali, in chissà quale testimonianza eccetera eccetera. 20:18, traffico. Eccoci qui, caro Parenzo, 800 24 00 24. Vogliamo sentire i titoli di Mentana intanto? Titoli di Mentana? Beh sì, certo. Vai a farti un caffè intanto. Vai a preparare l'aperitivo, i soliti due minuti con il Mentana style, per carità, meravigliosi, Napolitano respinge il testo del decreto sul federalismo fiscale municipale adottato ieri sera dal governo, nonostante lo stop in commissione alla Camera. Un testo irricevibile, un comportamento non corretto, scrive il Presidente della Repubblica. E la Lega è in cassa, come un pugile, lo stop del Quirinale, riunisce a Milano un vertice, intanto Bersani e le opposizioni esultano e il leader del PD lancia un messaggio a Bossi: federalismo non lo farete con Berlusconi perché a lui non interessano che i vostri voti, e li userà per il processo breve o per difendere la cricca di Roma. Quanto a Berlusconi, dopo l'iniziale ottimismo da Bruxelles, il Presidente del Consiglio non ha ancora commentato lo stop del Quirinale, ma torna a puntare il dito sulla magistratura. Gli italiani condividono la nostra opinione di essere una Repubblica purtroppo giudiziaria, commissariata dalle procure. Ma ci sono o non ci sono le foto ritratte durante le feste del Premier? Esistono o non esistono? L'avvocato Ghedini stoppa tutto, se esistono sono false. La procura smentisce, agli atti non ci sono, ma c'è chi dice di averle viste. Giovedì 17 marzo è la festa dei 150 anni dell'Unità d'Italia, ma quel giorno le aziende italiane resteranno aperte. A Confindustria quella festa nazionale non piace. Siamo dentro una crisi profonda, abbiamo bisogno di lavorare sodo, dice il presidente Marcegaglia. Doveva essere il venerdì della spallata finale, il giorno della partenza, ma Mubarak non ha lasciato. In Egitto scoppia il caos, decine di migliaia di manifestanti tornano in strada per invocare la caduta del Rais. Eccoci qui, 20:22 800 24 00 24. Francesco ci chiama da Lecce, buonasera Francesco. Francesco, sveglialo tu, Parenzo. Francesco, Signor Francesco, niente. Angelo da Roma. Toto. Buonasera, dica. Ah, questi non erano titoli, è il telegiornale intero. Sì, è così, è fondamentale, fatto così. Fa una specie di enciclopedia della politica ogni giorno. Buonasera, ormai continuo ad ascoltarla perché è molto divertente. Nonostante i continui avvitamenti che lei fa, i salti mortali per cercare di difendere l'indifendibile. Ma chi difende l'indifendibile? Io non devo difendere nessuno qua, Angelo. È stato pazienza. Meraviglioso quando ha presentato l'intervista. Voi siete malati, voi siete malati, cioè, avete una malattia in testa, un tarlo in testa. Io devo difendere Berlusconi. Non me ne frega niente. Volete capirlo o no che non me ne frega niente? Sì. Sì, è falsare e sì, che sì de che? Cosa? Cioè, quale allora, sì. Cosa che dice? Ha presentato in maniera molto seria, con voce impostata, l'intervista a Lele Mora dicendo l'incipit: adesso parliamo di politica. Non è vero che Lele Mora pagava le signorine per Berlusconi, è meraviglioso. Ma chi l'ha detto, cioè, una cosa del genere? Lei ha detto questa cosa. Ma chi l'ha detto? Ma cosa sta dicendo? Detto, ma lei sta dicendo una cosa che non esiste, inesistente. Vabbè, ho detto. No, ma io sento quelle registrazioni, qui c'è l'interpretazione. Comunque è un moderato ormai. Scusi, è un moderato. Caro signore che si chiama Angelo e ci chiama da Roma, io sono l'interprete autentico delle mie parole o no? Fino a prova contraria. Sbaglio. Assolutamente. Ecco, certo. Benissimo. Allora le faccio l'interpretazione autentica di quello che ho detto. Ho lanciato l'intervista a Lele Mora ieri di Alba Parietti. Allora, prima cosa, ho detto, prima di parlare del sesso di Lele Mora, del fatto che non tromba da 2 anni o da 3 anni, eccetera, eccetera, voglio farvi sentire una cosa più politica, una cosa che riguarda le discussioni di questi giorni. E dunque vi faccio sentire Lele Mora che dice: io non davo una escort a Berlusconi, non ho mai presentato escort a Berlusconi, perché attiene al processo. E poi, dopo aver fatto sentire l'audio, ho aggiunto: beh, certamente questa è una strategia difensiva, perché gli avvocati gli avranno detto: sulle escort devi dire sempre e comunque, in ogni caso, in qualsiasi situazione, che non hai presentato mai una escort a Berlusconi. Ha capito quello che ho detto oppure no? Lo devo ripetere in francese, in inglese, in spagnolo? Me lo spieghi, Angelo? Pronto? Sì, mi sente o non mi sente? Vabbè, non ha sentito niente. È caduto. Sono robe incredibili. Io non volevo difendere nessuno. Volevo spiegare quello che diceva Mora. A me che cosa me ne frega di Lele Mora? Cioè, ma sono cose da pazzi. La gente pensa che uno sia qui. Ognuno capisce quello che vuole. No, ma uno pensa che uno sta qui e si fa un mazzo così ogni giorno per costruire qualcosa di divertente o qualcosa di appetibile per gli ascoltatori, perché deve difendere qualcuno. Ma sono delle cose dell'altro mondo. Cioè, delle cose che sono talmente lontane dalla realtà. Cioè, ormai si ragiona solo per stereotipi, incasellando le persone in un partito, in un movimento, sei berlusconiano, sei anti-berlusconiano, sei un pezzo di M, sei un servo, uno schiavo. No, non è che uno si ferma a quello che uno dice, no, c'è una sorta di impazzimento. C'è tipo un retropensiero, dice questo perché vuole difendere questo, poi senza capire nemmeno quello che uno dice, cioè, cose incredibili. Però la cosa delle foto invece, il giallo delle foto è interessante, cioè? Perché c'è una contraddizione della procura. Perché la procura, stando ai titoli di Mentana, smentisce l'esistenza delle foto, ma oggi abbiamo letto i giornali, sì. E la procura dice le foto, se ci sono, e sono irrilevanti per l'inchiesta, quindi... Almeno io avevo letto questa dichiarazione da qualche parte oggi sul Corriere Repubblica, sì. Della procura di Liberato o qualcun altro, che diceva: no, le foto ci sono, ma non finiranno nel faldone, quindi sono irrilevanti ai fini dell'inchiesta. Ma se sono irrilevanti vuol dire che però ci sono. Sì, vabbè, se sono irrilevanti, smentiscono l'esistenza delle foto. Sì, se sono irrilevanti, insomma, non mi pare. No, vabbè, ma su questo fatto esistono o non esistono? Molto probabilmente esistono, l'ha detto anche Barbareschi. Le ragazze, come diceva Barbareschi, qualcuno dice. È una cosa intricata, effettivamente. Ma no, ma adesso io non credo a quello che ha detto Barbareschi, che esistono delle foto fatte da professionisti. Credo che siano delle foto fatte dalle ragazze. Secondo me, guarda, al di là del contenuto di queste foto, che pure è esplosivo, e come dice Mentana su Vanity Fair, certamente cambierebbe molto dal punto di vista dell'opinione pubblica, no? Avere una foto pubblicata di Berlusconi magari mezzo nudo davanti a delle donne col seno di fuori, eccetera eccetera, su questo non c'è dubbio, cambierebbe molto, però la sostanza è un'altra. Quello che si faceva in quelle feste si può anche immaginare, no? Particolare più, particolare meno. Il problema è che il fatto stesso dell'esistenza di quelle foto, cioè com'è possibile, nonostante qualcuno gliel'abbia consigliato spesso, anche persone molto vicine a Berlusconi, com'è possibile che non venga sequestrato tutto a qualsiasi persona che naturalmente non abbia ruoli istituzionali, che vada a visitare Berlusconi nella sua residenza privata. Berlusconi ha sempre detto: qui non viene nessuno, viene perquisito, io sono una persona libera. Sì, ho capito, ma il punto invece è proprio questo, cioè, che invece queste persone qui, chiunque non sia un ospite eccetera, dovrebbe essere perquisito e strumenti fotografici eccetera eccetera dovrebbero, a meno che non siano delle persone di estrema fiducia, hai capito? Cioè, Però lì mi sembra che di fiducia entrava la qualunque praticamente, per cui va bene, chi c'è qua? Angelo da Roma di nuovo, che abbiamo recuperato, ha sentito quello che ho detto Angelo o non ha capito nulla, scusi Angelo, ma è inutile che me lo richiamate e poi fate finta che sia in linea, non c'è il signor Angelo da Roma, non c'è, Borsa. Eccoci, per l'ascoltatore di prima io rimanderei di nuovo Lele Mora, qualcosa di Lele Mora, fatemelo mandare di nuovo Lele Mora, dov'è qua, eccolo qua, Lele Mora intervistato da Alba Parietti, non sopporto Bocchino Fini, questo era abbastanza prevedibile comunque, in ogni caso sentiamo. Non sopporto, diciamo, i volta Gabbana. Allora... Fini e Bocchino. Non sono un magnaccia. Tu sei un magnaccia. Magnaccia, io voglio spiegare la parola magnaccia, che è veramente brutta. Magnaccia è uno che prende le sue donne, le fa prostituire, divide i soldi o si tiene i soldi. Io di tutto ciò non faccio proprio niente. E devo dirti che questa cosa mi dà molto ma molto fastidio, perché io proprio sono l'opposto e sono contrario a questa tipologia di cose. Venuta nel mio spazio sotto salice, non stare lì così, mettiti comoda. Va bene, c'è un'altra cosa straordinaria che vi devo fare sentire, e riguarda un deputato del PDL che si chiama Mario Pepe. Mario Pepe, certo. Sì, Mario Pepe è quel deputato che a un certo punto veniva praticamente inviato a convincere gli incerti, diciamo, no? Sì, l'ambasciatore, quello diplomatico. Sì, l'ambasciatore presso gli incerti, cercava di convincerli in tutti i modi. E senti cosa dice: io scrivo delle lettere a Berlusconi, il quale le legge di notte. È una cosa. Gliela voglio chiedere prima o poi, onorevole Pepe. Legge magari... le lettere di Pepe di notte. Secondo Pepe, Berlusconi si legge le lettere che lo stesso Pepe scrive a Berlusconi di notte. Ma adesso io credo che Berlusconi di notte faccia dell'altro, comunque si occupi dell'altro. Me lo auguro per lui. Non sto parlando di Bunga Bunga o cose varie. No. O dorme, o vede persone, o legge, o fa quello che vuole. Non credo che passi le notti a leggere le lettere che gli scrive l'onorevole Pepe. In ogni caso, Pepe. Pepe, ma Berlusconi lo ascolta molto? Beh, io ogni tanto gli scrivo delle lettere, perché che lui si legge nella tarda notte, sperando sempre che non mi telefoni per avere dei chiarimenti. Addirittura dice: speriamo che non mi chiama per avere dei chiarimenti con queste lettere. Una cosa mi... le prende e butta in un giardino subito. Non lo so, è una cosa pazzesca. Leggerà le poesie di Bondi, se è tutto finito, è tutto finito, è tutto al massimo, è tutto finito. A proposito dell'ironia sull'Egitto e su Mubarak, anche Pierluigi Battista, vice direttore del Corriere della Sera, insomma, cade in questo tranello della battuta, no? su Mubarak, che per carità ci sta tutta, però ormai è abbastanza abusata. Sentiamo. La telefonata di Berlusconi del 27 maggio è considerato un atto politico di governo, un atto di Stato che è consistito nel evitare una guerra con l'Egitto e liberando Ruby in quanto nipote di Mubarak. Incredibile, ma vero, ma è proprio così. Beh, questa è la tesi in realtà dell'onorevole Paniz. Se non sbaglio, dell'avvocato Pani, che qualche giorno fa, PDL, presidente dello Juventus Club Montecitorio, il quale ha detto qualche giorno fa: beh, insomma, in realtà si voleva evitare una crisi diplomatica. Vabbè, deboluccia, questa è difesa, roba dell'altro mondo. Prima di presentarvi un ospite, perché c'è una cosa curiosa, caro Parenzo, adesso tu la prenderai come scherzo e. No. È certamente una cosa scherzosa, divertente, però siccome viene fatta all'interno di un'università italiana può suscitare qualche perplessità, almeno da parte mia, però non la voglio prendere seriamente, per carità. Ormai è tardi, sono le 8:35, non ho più voglia di polemizzare stasera, già ho polemizzato con gli ascoltatori, eccetera. È venerdì, poi ormai weekend. Leggo su Repubblica di Milano, Varese, il professore universitario agli studenti, elaborate l'algoritmo del bunga bunga. Cioè? Polemica all'Ateneo dell'Insubria per l'esercitazione assegnata da ricercatore Marco Tarini. Nel testo sono citati il presidente della Repubblica di Bananas e il suo cerimoniale tipico. Vabbè, il riferimento è chiaro, diciamo quello che dovrebbero fare gli studenti un po' meno, ma fra poco glielo chiederemo. Tra l'altro c'è proprio un testo scritto, laboratorio di algoritmi e strutture dati, questo all'interno dell'università, università pubblica con i quattrini nostri, bunga bunga. Marco Tarini, Università degli Studi dell'Insubria. Così diciamo il progetto che gli studenti dovrebbero elaborare ha proprio questo titolo, Bunga Bunga. Vabbè, è la dimostrazione di una università che non è come dire, staccata dal contesto nel quale vive. Va benissimo. Ma stai scherzando oppure stai dicendo sul serio? No, sono serissimo. Adesso sono curioso di capire. Consegna del progetto entro domenica 13 febbraio 2011 alle 24. Vive, è un'università che vive in questo mondo e non in un altro, è legata al territorio. Tra l'altro in Subria è vicino a Arcore, per cui... Il presidente della Libera Repubblica di Bananas, questo c'è scritto nel progetto, il suo entourage, sono noti per la loro bontà d'animo. Pur avendo accumulato ricchezze praticamente inesauribili grazie alle proprie enormi capacità, non si dimenticano della condizione dei loro concittadini in difficoltà economiche e del tutto disinteressatamente ne aiutano personalmente molti. Beh, insomma, è bello, per carità, è geniale. Però insomma devo dire che c'è una leggera interpretazione della realtà così come si manifesta ai nostri occhi. Specificatamente, nella villa del presidente, sempre della Libera Repubblica di Bananas, ma ogni riferimento è puramente casuale, vengono organizzate anche più volte a settimana delle sobrie cene con dopocena alle quali partecipano, oltre al presidente stesso e ai vari personaggi del suo entourage, sempre uomini, anche molti concittadini bisognosi di aiuto, sempre donne. L'aiuto non consiste solo nella cena stessa, i benefattori presenti spesso elargiscono a titolo di beneficenza delle forti somme di denaro ai casi che più muovono a compassione i loro cuori, secondo la loro specifica sensibilità. La consegna vera e propria delle somme di denaro avviene secondo un cerimoniale tipico che nella lingua di Bananas prende il nome di Bunga Bunga e durante il quale fra l'altro i partecipanti si dividono in coppie o talvolta anche in gruppetti, in una stanza appositamente approttata della magione del presidente. E poi c'è la descrizione del progetto che fra poco ci faremo descrivere dal suo geniale, devo dire, perché la genialità c'è, comunque dal suo geniale creatore. Ironico, giusto, attuale. Sì, ma all'università. Uno lo può fare ma come provocazione. Anziché fare i soliti temi, adesso poi ce lo spiegherà, ma anziché fare i soliti temi, dice il candidato e fare una simulazione su un fatto banale, questo ha fatto dell'ironia su un fatto di cronaca. Vabbè, è divertente. L'importante è che poi i candidati svolgano dal punto di vista scientifico il tema, no? Ma hai capito qual è il tema? Io non l'ho capito, adesso ce lo facciamo spiegare tra poco. Se è un algoritmo, non lo so, è del liceo classico perché non c'era matematica, quindi devo dire, se è un algoritmo... Insomma. Non ho idea. Sì, diverte la cosa, cioè anziché fare i soliti temini che si facevano alle ho medie, capito, no? Ma all'università italiana sì, c'è un tema sul bunga bunga. Ma sai il tema, quelli che si facevano fare alle medie, dice una nonnina va al mercato e compra quattro pere, va bene, lui ha preso il tema dell'algoritmo e lo ha attualizzato alla Repubblica di Bananas. È bellissimo, è un genio, bravo. Alberto da Roma intanto. Alberto? Dottor Cruciani? Dica. Sì, buonasera innanzitutto. Buonasera, dica pure. E complimenti. Innanzitutto condivido con lei la simpatia per il sindaco Renzi, mi associo a lei. Allora, solo un minuto. Volevo dire al dottor Parenzo, sì. Io lavoro a Roma, faccio il tassista, e volevo dire che in Italia, fino a prova contraria, esiste una presunzione di innocenza. Il dottor Parenzo continua a insistere di questo reato commesso da Berlusconi fino a prova contraria, credo che c'è una presunzione di innocenza, certo. E la differenza tra Marrazzo e Berlusconi, Marrazzo si è dimesso ma è stato colto nella flagranza del reato, ma non Berlusconi ha commesso nessun reato. Carissimo dottor Parenzo, mi lasci finire. Carissimo tassista, non ha commesso nessun reato Marrazzo. La differenza tra lei e Sgarbi è esattamente lo spessore. Il caro Sgarbi, ha ragione. Glielo dico perché l'altra sera quando ha inveito contro veramente il contrario, comunque lo riporta. No, sicuramente aveva ragione. Lei ha il vizio di puntare il dito contro Berlusconi su una cosa che ancora deve essere provata. Sì, no, ma non si stava parlando del reato di prostituzione nei confronti di Berlusconi, che non c'è al di là della questione della prostituzione minorile, quello che è la violenza sessuale. lo dice sempre che no, dice Berlusconi è indagato, insiste molto su questo punto. Prostituzione minorile. Sì, ho capito, va bene, tu lo dici, ma solo lo vuoi sottolineare chissà per quale motivo, ma come sai bene. No, ma perché? Perché è l'indagine per cronaca, sì, cosa devo dire? Non lo sappiamo, tu lo sottolini per un altro motivo. No, perché? Vabbè, poi, comunque. È difficile da provare. Dottor Cruciani, Alberto, come vuole concludere, mi dica. No, voglio concludere, dottor Cruciani, che Berlusconi, sì. Berlusconi, fino a prova contraria, deve essere tutto provato. Poi, concludo subito, dottor Cruciani, non si può dare retta a delle troiette che vengono addirittura ferma al semaforo, si ferma una Mercedes, le portano ad Arcore, cioè quella non so se lei ha seguito quella cosa che hanno accompagnato quella ferma al semaforo, la Macri, non so chi era, cioè andiamo a vedere i precedenti penali di questa marocchina del cazzo. Calma, no, vai, calma, Alberto, abbi pazienza, no, adesso, allora, adesso va tutto Parenzo, va tutto bene, va tutto Baraldini, no, della no, ma Baraldini, che c'entra la Baraldini? Alberto, non dica stupidaggini, la Baraldini non c'entra niente. E comunque qui va bene tutto, anche usare un linguaggio spregiudicato, anche utilizzare un linguaggio corrosivo. No, okay. Senza arrivare, no, Alberto, su questo sono intransigente. Senza, okay. Però, senza arrivare, esatto, senza arrivare a un linguaggio, questa marocchina del che lei ha utilizzato, che è un linguaggio che ha anche una punta, una venatura razzista. Razzista. Scusa, no, ma chieda scusa. Andiamo a vedere i precedenti. No, ma che c'entra? Non è che le persone non possono parlare quando hanno dei precedenti, Alberto. La credibilità, va bene, d'accordo, ma quella saranno la credibilità, Alberto, che aveva Veltroni quando ha messo Baraldini, ma che c'entra? Cosa c'entra, Alberto? Ma non c'entra nulla. Mi faccia. E allora solo Berlusconi è un criminale. Vabbè, ma che c'entra, Alberto? Per carità. No, no, no, no. Va bene, va bene. Grazie, grazie, Alberto. Grazie, grazie. Dove andiamo? Beh, il professor Marco Tanini. Professor Tanini, buongiorno. Come sta? Buonasera, anzi. Come sta? Sto benissimo. Che si è inventato? L'algoritmo, il bunga bunga. Sì, guardi, intanto devo tranquillizzare subito tutti i radiospettatori, perché nessun soldo è stato speso pubblico di questa cosa, perché il mio ruolo nell'università, o meglio in quel corso, sì, è una sorta di volontariato gratuito come quelli di molti altri ricercatori. Beh, ho capito, però il volontariato gratuito qualcuno la paga per fare questi corsi, senz'altro, per fare il ricercatore, non per fare il docente, e invece facciamo anche il lavoro dei docenti. Vabbè, ma adesso lasciamo perdere queste rivendicazioni così di basso profilo, diciamo la verità, che siano soldi pubblici, perché vabbè, questo tutto non lo tutto sono, quello che viene fatto all'università, scusi professor Tanina, al di là di come la pagano o come non la pagano, tutto quello che viene fatto all'università, qualsiasi attività viene fatta, comunque viene fatta con soldi pubblici, al di là della sua posizione. Senz'altro, qualsiasi, alcune sono volontariato gratuito, questa ad esempio è un volontariato gratuito, ma non è importante, ma è un dettaglio che volevo specificare. Vabbè, cioè, molti allora ricercatori fanno volontariato gratuito, l'università si regge molto su questo, anche proprio quella categoria. Però, che professor Tanini, a noi no, questa roba qua stasera, queste squilie così, sì, non ci interessano, non mi faccia la predica sui ricercatori, sui docenti eccetera, perché sennò apriamo un altro discorso. Mi spieghi invece, la cosa è molto più interessante e divertente, la vicenda dell'algoritmo applicato a Bunga Bunga. Perché vuole far fare agli studenti un algoritmo applicato a Bunga Bunga? Che scopo? Su questo mi dispiace deludere, anche a me piacerebbe che ci fosse qualcosa di succoso, interessante da raccontare, ma purtroppo è soltanto come possiamo dire, la forma che ha avuto questo progetto. Ci sono stati moltissimi altri precedenti e sono sempre fatti su cose di fantasia, per esempio, non lo so, poteva essere fatto, uno è stato fatto su un ipotetico campus abitato da puffi che studiavano in questo campus, un altro è stato fatto su, che ne so, su una mega tanica di piranha che si divora una vicenda, bisogna determinare qual è l'ultimo, cioè è proprio come. Beh, queste sono cose molto più di fantasia rispetto al Bunga Bunga e alle cene, cioè. Se legge il progetto è abbastanza di fantasia anche il Bunga Bunga, ovviamente si riferisce a un fatto, appunto, non vorrei dire di cronaca, ma mi sembra più di gossip, ma questo è normale. Vabbè, ma che devono fare gli studenti, scusi? Devono calcolare, sostanzialmente il progetto scrive delle regole di un gioco e loro devono calcolare come evolve questo gioco in una specie di simulazione, e parte del task, parte della difficoltà consiste proprio nel vincere delle regole formalizzate, quelle che sarebbero le specifiche. No, adesso però non mi sia troppo tecnico. Qual è il punto? Io vedo qua descrizione del progetto, evento, introduzione di una persona, cioè nel gruppo al Bunga Bunga, nella villa del presidente. Guarda, avrebbe potuto essere ambientato nei scacchi, allora sarebbero state scritte le regole di come si muovono i pedoni, come si muovono gli alfieri, e poi la domanda sarebbe: fate un progetto, fate un programma che, dato una scacchiera, determina se scacco matto, ad esempio. E invece qua ci sono delle regole di un gioco inventato che ha questa forma diciamo grafica di essere queste ipotetiche ville in cui vengono raggiunte delle somme, delle fanciulle, senza, tra l'altro, se no per progetto non c'è nulla di, non c'è nessun riferimento scabroso. Cioè, allora, la descrizione del progetto è questa: bisogna scrivere un programma che legga da un file una sequenza di eventi, sì, come esatto, l'introduzione di una nuova persona nel gruppo delle cene, l'estromissione dallo stesso gruppo di elementi caduti in disgrazia o l'indizione, esatto, di una cena nella villa del presidente. Per alcuni eventi il programma delle regole del gioco. Cioè, lei è un gioco su quello che accade nella villa del presidente. Beh, diciamo che è un gioco su quello che, su una estrema semplificazione, che è un modo per formalizzare quello che può accadere ma si può calcolare anche con quante donne è andato il presidente? No, questo specificamente, queste sono domande, non c'è, c'è piuttosto, se legge avanti c'è scritto tutto, c'è piuttosto, sì, ma io non capisco calcolare nulla, quanti gruppi si formano all'interno di questa comunità ipotetica. Ma gruppi per fare cosa, amico mio? Non ho capito. Ma nel testo c'è scritto per scambiarsi forme, per scambiarsi com'è che è, per fare delle redizioni di denaro, cioè un ho capito, qualcosa di questo tipo. È un divertismo, lei, sì, un divertismo. Scusi, però, professor Tanini, No, è chiaro che è ironico. No, certo, però io resto dell'idea, anche all'interno dell'università, entra in un gioco matematico complicato il bunga bunga, se ne poteva fare a meno, secondo me. La ringrazio, traffico. Ma no, come no, se ne poteva fare a meno, perché adesso ci saranno le polemiche all'università, con i soldi pubblici si piglia in giro il presidente del consiglio, si fa politica, vedrà. Ci ha chiamato da Roma Stefano, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Ma io chiamavo perché, dunque, in base alla telefonata che ha fatto ieri Sgarbi, sì, il quale faceva la distinzione fra prostitute e mantenute, sì, ecco, io ho da dire una cosa. Io sono stato il compagno per 2 anni di una ragazza dell'Oggettina. Chi è? Beh, non mi va di dire chi è. È una delle ragazze. E devo dire che in realtà queste... Ma maggiorenne o minorenne? Non me lo faccia dire, per cortesia. Quindi minorenne? Non me lo faccia dire adesso. Se no avrebbe detto maggiorenne, va bene, comunque. Comunque. Niente, devo dire che comunque queste ragazze si prostituiscono. Io le posso... Insomma, io ho assistito a cose che in realtà posso dire che queste ragazze si prostituiscono. Cioè, in che senso lei lo dice? Per esperienza diretta, naturalmente. Per esperienza diretta, nel senso per conoscenza della vita che la sua fidanzata ha fatto, evidentemente. Sì. Scusi un attimo, la sua, questa persona è stata la sua fidanzata fino a quando? Ma è fidanzata, onestamente. Vabbè, dunque, io ero fidanzato allora, ma con un'altra, e questa la frequentavo almeno dalle due giorni alla settimana. Ecco. Cioè, lei era fidanzato e poi andava anche con quest'altra, va tutto bene. Sì, no, capisco che è una situazione anomala. No, ma anomala, in realtà. Ma per carità, complimenti, che le devo dire? Cioè, era una situazione per niente anomala, in realtà. Ma comunque, insomma, al di là di questo, lei aveva una storia, se non specifichiamo fidanzato o non fidanzato, aveva una storia con questa ragazza qui. Sì. Mi sembra di capire minorenne, lo possiamo dire? Guardi, vabbè, il silenzio ha senso, perché l'unica minorenne in realtà è che risulta, al di là di Rubi, che non è diciamo del gruppo dell'Oggettina, è una ragazza, se non sbaglio, brasiliana, no? Ripeto, non me lo faccia dire, per cortesia. Va bene, comunque, non glielo faccio dire. Una dell'Oggettina, dai. Una dell'Oggettina, una dell'Oggettina. Lei dice, questa ragazza qui, questa persona che io ho frequentato, si prostituiva. Ma lei la pagava? No, io no. Beh, la pagavo. Quando ci usciva a cena, è chiaro, la cena la offrivo, ma non ho mai pagato la prestazione sessuale. Perché io l'ho conosciuta, tra l'altro, in un contesto diverso. Insomma, noi avevamo un rapporto tale che insomma ci frequentavamo da fidanzati, tra virgolette. Anche se io ero con un'altra. E lei era a conoscenza che questa persona, come immagino, no, frequentava la casa del Presidente del Consiglio? Sì, certo, io assistivo alle telefonate, cioè, guardi, la cosa che più mi aveva, non scandalizzato, però sorpreso, è che il Presidente del Consiglio la chiamava, sono sotto la voce lei, capitava che noi eravamo a cena in un qualche locale. Scusi, può ripetere questa cosa su Berlusconi, scusi, la può ripetere bene? Il Presidente del Consiglio la chiamava e la invitava alle feste. Capitava, ripeto, che noi eravamo a cena delle volte e lui la chiamava, lei mi metteva viva voce nel cellulare, perché io onestamente subito non ci credevo, ma lei mi metteva viva voce, sentivo la voce di lui, addirittura e com'era stavo... registrata sul telefonino? Cioè il numero, che cosa c'era scritto? Papi, c'era scritto Presidente, c'era scritto... Non le ho mai guardato il cellulare, non l'ho mai guardato, cioè non sono andato a scuriosare nella sua rubrica del telefono. E quando il Presidente veniva messo in viva voce, cosa diceva quando le è capitato di sentire? Beh, la invitava alle feste, poi la chiamava con degli appellativi tipo amore, poi la cosa strana, cioè strana, la cosa che più mi aveva impressionato era che lui voleva stare al telefono, cioè quindi cercava di parlare, lei invece cercava di stringere. E poi mi ricordo alla fine di una telefonata, mi ricordo che disse: ma mi vuoi bene? Cioè, e allora la cosa che mi faceva pensare, mi diceva: ma è possibile che una persona di 74 anni con diciamo il ruolo che ricopre, cioè si rivolge ad una ragazza di giovane, adesso non voglio dire l'età, ragazza giovane, in questi termini? Scusi, all'epoca era minorenne naturalmente quando chiamava. No, ripeto, Cruciani, non me lo faccia dire, è una delle oggettive. No, ho capito, però questo è importante. Quando chiamava Berlusconi, Berlusconi... No. Cioè quando lei ha sentito la telefonata di Berlusconi... Non era minorenne. Questa persona ha frequentato Berlusconi anche quando era minorenne, secondo quello che lei può sapere? Questo non lo so, non lo posso dire. Dire con certezza, insomma, non lo posso dire. Senta, e c'è stato Berlusconi pagava questa persona che lei frequentava? Sì, ma infatti la cosa incredibile che io ho visto, cioè sono stato testimone oculare di bonifici che vedevo nel suo conto corrente, e c'erano bonifici con scritto proveniente da Berlusconi e Silvio. E io mi dico, ma fra me e me, scusi, come Berlusconi? No, scusi, questa qua è una cosa un po'. Scusi un attimo. Ma praticamente nel conto corrente di questa ragazza, sul conto corrente c'erano bonifici, ma fra l'altro queste qua sono cose che mi sembra che siano state pubblicate anche dai giornali. Comunque, nel conto corrente della ragazza c'era bonifico di 2000 euro proveniente da Berlusconi Silvio. Senta, questi bonifici, scusi un attimo, questi bonifici erano per prestazioni sessuali? Ma oddio, questo... Beh, è abbastanza importante questo, insomma, naturalmente. Non glielo so dire, onestamente. Cioè, vuol dire, questa ragazza qua, la persona che lei frequentava, andava ad Arcore? Sì. E le ha detto di aver avuto rapporti sessuali con Berlusconi? No, stavo pensando se rispondere o meno a questa domanda. Non è difficile alla fine. No, mi sembra che già il fatto che lei non risponda o esiti a rispondere mi sembra abbastanza, però comunque lascio a lei la risposta, altrimenti perché si sentivano, scusi? Per partecipare a queste feste. In queste feste il Presidente ha consumato rapporti sessuali con la persona che lei frequentava? Erano argomentazioni insomma, lei non si sbilanciava molto e io non insistevo tanto, perché quando poi si parlava dell'argomento lei non vedevo che non aveva molto piacere. Però lei lo dava per scontato, mi sembra. Certo, sì. Ma in presenza sua Berlusconi quante volte ha telefonato? In sua presenza? Almeno tre volte sicuro. E con che, sempre con quegli stessi toni, con le stesse parole? Sì, una persona molto dolce, molto... Ma io apro una parentesi, cioè... Ma non c'è nulla di registrato? No. Sicuramente nel cellulare della ragazza, sì. No, registrato, non le telefonate, naturalmente sì, cioè i tabulati, ma cioè la sua ragazza, quella che all'epoca era la sua ragazza, non registrava le telefonate, no? No, non credo. No. Non ha mai preso delle foto dentro la casa di Berlusconi, no? Ma questo no, non lo so, non credo, no, non me l'ha mai fatto, anche l'avesse fatta non me l'ha mai fatta vedere, sì, ma non credo. La cosa più incredibile, diceva? No, stavo dicendo, la cosa più incredibile è quello che ho detto poi anche prima, insomma, che una persona della sua levatura, insomma, chiamasse una ragazza di quell'età e si rivolgesse con quei toni. Una persona, ripeto, però molto molto dolce, molto, certo, certo. Lo sentivo da innamorato, quasi. Quasi da innamorato, insomma. Io mi rivolgo, beh, io sì, insomma, io mi rivolgo in quei modi, in quei toni, con una persona alla quale tengo tantissimo. Certo, certo. Devo chiudere, caro Stefano, la ringrazio. Se avrà piacere, poi magari ci teniamo in contatto, sempre se vuole, naturalmente, approfondire questa discussione. Ci sentiamo noi lunedì, mi sembra, caro Parenzo. Il bello della diretta, Cruciani, grandissimo come sempre. Coupe de théâtre finale, grande. A lunedì 18:30, ciao.